American Tourister Pack for Stories. Prepara la valigia. Preparati a far festa. Preparati all'estate. American Tourister. Valigie e borse da viaggio. Colorate, leggere e resistenti. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E carissimi amici di Runtime, benvenuti come tutti i giovedì sera all'appuntamento con Quando eravamo futuro alle ore 21.30, che dovrebbe essere l'orario standard, però poi a volte diventa 21, a volte diventa 21.30 e questa sera è 21.30, quindi benvenuti, anzi 21.32 diciamo così, quindi siamo un po' leggermente in ritardo, ma tanto chi ascolterà poi la trasmissione in podcast se ne fregherà di queste cose inutili che sto dicendo. Vi do immediatamente un'informazione per tutti coloro che ci stanno già ascoltando su runtimeradio.it, che la chat che tanto abbiamo amato e tanto abbiamo desiderato ci ha abbandonato. Purtroppo ha fatto il suo dovere, quindi se andate su runtimeradio.it/diretta troverete il pulsante per il gruppo Telegram che è Dirette Runtime Radio. Quindi aprite Telegram, scrivete Dirette Runtime Radio e trovate ovviamente la chat con la quale potete interagire con noi. Purtroppo quella chat era vittima, insomma, di abusi edilizi classici, insomma, di quando un sistema aperto senza login, poi abbiamo messo il login ma era un po' troppo macchinoso, abbiamo provato a ripristinarla e alla fine abbiamo deciso per ora lasciamo perdere. C'è Telegram, venite su Telegram, che così anche durante il resto della giornata quando non ci sono dirette potete tranquillamente interagire con noi. Ma iniziamo, Carlo Sant'Agostino. Eccomi qua. Eccolo qua, che è Carlo Sant'Agostino, oggi è l'autore della puntata e c'è Davide Gattis. E buonasera a tutti. Benvenuto. Mi sentite? Sì. Sì, sentiamo, sentiamo. E io sto registrando, voi state registrando? No. Hai ragione, non sto registrando. No, vabbè, oramai dai. Sono... Vabbè. Oramai niente. Se riuscite registrate, se no non fa niente. Comunque, non c'è Roberto Tomaiuolo. Ragazzi, però prima di spiegare, insomma, che Roberto Tomaiuolo e sentire il messaggio che ci ha lasciato a noi posteri, diamo a Sant'Agostino l'opportunità di spiegare di che cosa parliamo oggi. Allora, oggi parleremo di un argomento che difficilmente si esaurirà in questa puntata. Perché? Perché volevo parlare dei giocattoli degli anni 70-80, i giocattoli della nostra infanzia e della nostra gioventù. E parlare di giocattoli è un argomento talmente vasto che finirlo in una puntata sarà un'impresa quasi impossibile. Infatti ho iniziato nelle specifiche, nel documento che condividiamo prima di iniziare la puntata, e che nessuno aveva letto fino a tre minuti fa, di mettere dei paletti ovviamente nella puntata, che sono, nel caso specifico, escludiamo da questa puntata in cui parliamo di giocattoli il fatto di parlare dei videogiochi. Perché? Perché i videogiochi spesso si vengono considerati dei giocattoli, sono un divertimento di quando eravamo ragazzi, ma noi già abbiamo addirittura una trasmissione dedicata alla storia del videogioco, che è archeologia videoludica, quindi è un mondo talmente vasto e abbiamo addirittura una trasmissione dedicata, quindi non parleremo di videogiochi. Che diciamo la trasmissione dedicata a sto punto, che è archeologia videoludica. Okay. Sì, l'ho detto. Apri le orecchie. Stai dormendo. Sì, abbastanza. Okay. E poi l'altra cosa su cui c'è stato un minimo di discussione, ma poi è passata la linea di non trattarla, è soprattutto il Lego. Il Lego, perché non parlare del Lego? Perché il Lego è un altro mondo talmente vasto. Guarda, io il Lego lo considero neanche un giocattolo, ma un metagiocattolo. Non nel senso di come metanfetamina, nel senso di droga o metà giocattolo, anche diciamo, però metà giocattolo nel senso di che è un qualcosa che va trasversale ai giocattoli, nel senso, noi tutti con il Lego abbiamo costruito i giocattoli, ha spesso costruito anche i giocattoli che volevamo avere come giocattolo, ma che non li avevamo, allora li facevamo con Lego. Quindi è un divertimento talmente orizzontale, talmente vasto, che trattarlo nella puntata dei giocattoli è impossibile, e molto probabilmente faremo una puntata apposita sul Lego, forse, probabile, non lo so. Comunque, di sicuro. Beh, adesso sì, perché l'hai escluso dalla puntata, quindi per forza, insomma, perché come si fa a non parlare di Lego? Cioè, Lego. Ma no, ma salterà fuori qualcosa, qualche accenno, però cercheremo di limitarci sul Lego, perché sennò ovviamente. No, ma in realtà io sono d'accordo con te. Diciamo che mi era sfuggito quando ho fatto la prima copertina, che poi alla fine è rimasta quella ufficiale, quella dove ci sono i Lego nella copertina, ma non fate finta di niente. Perché in realtà io non avevo ancora letto il documento e non ci eravamo, diciamo, consultati, però sono assolutamente d'accordo con Carlo su questa cosa. Aggiungerei anche il fatto che escluderei, se non di striscio, i giochi elettronici, che anche quelli meriterebbero un capitolo a parte. Tra i giochi elettronici c'è gioco elettronico e gioco elettronico, quindi ci sono quelli che più attengono ai videogiochi, quindi giochi elettronici ma che vanno verso i videogiochi e che quindi vanno sui videogiochi. Ci sono dei giochi elettronici o elettrici, che magari di cui si potrà parlare durante la puntata. Non lo so se nei giochi elettronici tu consideravi cose tipo l'Allegro Chirurgo. No, io parlo proprio dei giochi elettronici, cioè i videogame riportati in giochi elettronici. Cioè, no, quelli vanno nei videogiochi. Quelli vanno nei videogiochi. Sì, dici? Serie, okay. Compagnia bella. Va bene, va bene. Sono videogiochi. Poi in realtà, mentre che tu parlavi, prima mi era venuto in mente un'altra cosa da aggiungere, perché poi in realtà noi parliamo di Lego tante volte, però bisognerebbe fare un discorso anche più allargato sulle costruzioni, no? Che non sono solo necessariamente. Sì, infatti faremo degli accenni su quello, okay, delle categorie. Ecco, come ti ho spiegato prima, Simone, questa sarà una puntata che sarà quasi una puntata degli elenchi. Ok. Perché alla fine noi faremo degli elenchi, poi in questo elenco salterà fuori qualcosa di cui approfondiremo, ma di sicuro nell'elenco potremo parlare di tutte queste cose, quindi servirà forse tanto a tutti per suscitare emozioni, ricordi, anche semplicemente dicendo un nome di un giocattolo o il nome di una marca di giocattoli nell'infinito elenco che faremo stasera. E infatti in chat mi aspetto poi che ci siano delle reazioni. Intanto salutiamo Pier Grippa, giustamente, Michela De Paola, che adesso arriva perché è finita praticamente la puntata di la puntata di Cortesia degli Ospiti, dove c'era la nostra Girasole. Salutiamo anche Ruggio, esatto. E Francesco Di Muro, che vabbè. Ciao. Ok. Detto questo, però, a questo punto, dato che poi partiamo proprio a sprombattuto, a questo punto sentiamocelo il messaggio postumo del nostro caro amico Roberto Domaiuolo. Infatti direi partiamo subito dal messaggio di Roberto, che non c'è stasera, ma ci ha lasciato questa registrazione attinente a quello che dovevamo parlare, ovviamente parlando male di me e delle mie regole, come al solito. È giusto. Però vedi, è un uomo senza coraggio, perché non c'è, perché non è presente in diretta, allora si fregia di dire è come ai tempi miei, quando qualcuno te lo mandava a dire, capito? Esatto. Quando andavi a dire alla ragazza, chiedigli, vai a chiedere se vuole diventare la mia fidanzata. Esatto. Vabbè, dai, sentiamoci Roberto, ci sentiamo fra due minuti. Ciao a tutti, come si dice nei film, se state ascoltando questa registrazione vuol dire che questa sera non sono con i miei soliti compagni di viaggio, ma sono comunque in viaggio, sto recandomi al lavoro e, come alcuni di voi sanno, lavoro all'estero, per cui è una cosa un po' lunga. Per cui per questa sera, per la gioia appunto dei miei compagni di avventure, non sarò presente. Ciononostante ho voluto lasciare un breve messaggio registrato per dirvi un po' dei miei ricordi di quelli che erano i balocchi con cui ci divertivamo appunto negli anni 70 e 80. Il non essere in diretta, tra l'altro, mi consente di ignorare i molti paletti che ha posto Carlo. Dovete sapere che questa è la puntata proposta da Carlo, perché noi facciamo a turno a proporre degli argomenti per questa trasmissione, e come sempre fa lui, chiaramente ci ha detto in maniera estremamente precisa ciò di cui dovremmo parlare, ciò di cui non dovremmo parlare, ciò di cui dovremmo parlare in parte, a rate e quant'altro, per cui Gli altri senz'altro lo faranno. Io ho una buona scusa perché, essendo registrato, non potrò essere sgridato, almeno in diretta da Carlo, ma voi comunque, mi raccomando, non ditegli nulla. Mi interessa innanzitutto parlare di una differenza che io vedo abbastanza grande, e cioè il fatto che, per quanto mi riguarda, io, il mio gruppo, i miei amici, io sono nato nel 1970, alla fine del 1970, non erano moltissime le occasioni in cui giocavamo a casa, e quindi da un certo punto di vista non erano moltissime le occasioni in cui utilizzavamo dei giocattoli. Noi per la gran parte della giornata eravamo insieme all'aperto, fuori. Io ho cominciato ad uscire molto piccolo, probabilmente avevo 6 anni, è vero che avevamo un cortile per cui i miei genitori magari potevano controllarmi dalla finestra, però di sicuro ritengo che noi fossimo un pochino più liberi e magari i genitori fossero un po' meno protettivi di quello che sono adesso, per cui i giochi non erano in effetti poi così molti, e in generale, come è evidente, non erano così complessi, ben fatti, come quelli che si possono acquistare al giorno d'oggi, per cui una gran parte di quello che facevamo era dovuta alla nostra fantasia, che però da quello che ricordo, insomma, non diminuiva minimamente il divertimento che provavamo nel giocare. Quindi senz'altro avevamo, come tutti, le pistole, le automobiline, i trenini e questo genere di oggetti con cui costruivamo i nostri mondi immaginari, tratti un po' dalla televisione, dal telefilm, da quello con cui venivamo normalmente a contatto. Giochi che ricordo con grande piacere sono senz'altro i miei robot, con le varie parti che sparavamo. Carlo ci ha detto, immagino ne parlerà anche stasera, delle varie marche, di come senz'altro ci sono copyright violate e tutto questo genere di cose fra i robottoni che utilizzavamo per giocare, i cloni autorizzati o no di Gigrobot d'acciaio, questo già un pochino più avanti. Comunque, un altro gioco che a me piaceva moltissimo e piace ancora moltissimo, anche se non ho avuto più occasione neanche di vederlo, io dire, ormai da decenni, è il Subbuteo, e quindi un gioco veramente bello e veramente tecnico che richiedeva grande applicazione e che poteva essere giocato sia in maniera tra virgolette più economica che in maniera più costosa. Esistevano dei campi normali, quelli in telo, o il famoso Astro Pitch, che aveva una piccola erbetta sintetica. C'erano squadre di tutti i tipi, palloni di tutti i tipi, ogni tipo di accessori per lo stadio, per il cartellone, si potevano veramente fare delle cose molto belle. Noi organizzavamo spesso tornei fra amici, in particolare avevo un amico abbastanza benestante che quindi si poteva permettere il campo migliore con tutti questi ammennicoli, e di solito ci riunivamo da lui per giocare. Accenno solamente perché, come il nostro Carlo giustamente ci ha fatto notare, ci sono altre trasmissioni che si dedicano solo a quello, che l'intrattenimento elettronico, che negli anni 70-80 era assai più semplice di quello che vediamo adesso, comunque ha cominciato ad avere una certa importanza. Per quanto mi riguarda, io non ho avuto console, ho giocato a console a casa di amici. Io i primi videogiochi che ho avuto li ho avuti su un VIC-20, bellissimi, mitico Radar Rat Race, e più avanti comunque solo e soltanto su computer, anche se da ragazzino comunque invidiavo molto l'Intellivision di un mio amico, che era davvero fatto bene a mio avviso per giocare, almeno con gli occhi di ragazzino. A rivederlo adesso mi fa un effetto abbastanza diverso. E con questo non voglio rubare altro tempo alla diretta e alla trasmissione, quindi ci rivediamo senz'altro, ci risentiamo senz'altro la settimana prossima in persona, anche perché credo che sia la puntata che dovrò decidere io, e magari quindi deciderò qualcosa di un po' meno ludico rispetto a quello che hanno fatto gli altri, così riprendo il mio tono serioso, che è quello più noto, almeno per me. Grazie ancora e buona registrazione, buona diretta e buon ascolto per chi ci segue. A presto. Bene, bene, allora rientriamo in studio. In realtà siamo sempre stati in studio, non ci siamo mai mossi di qui, però è interessante. Prima di lasciare la parola a Carlo, che poi inizieremo questo elenco appunto, e poi magari ognuno di noi magari farà accenni su quello che sono alcuni ricordi o qualcosa alla quale è particolarmente legato, che in effetti sono due cose. Una la dico dopo quando poi facciamo l'elenco. E la seconda, la prima comunque è diciamo legata al fatto che anche io ho passato molto tempo in strada, ma di questa cosa secondo me poi ne parleremo anche questo, sul modo in cui, perché una cosa sono i giocattoli, una cosa sono i videogame, una cosa sono gli oggetti e una cosa poi è in realtà quello che facevamo, come ci comportavamo, e anche lì magari è un'altra puntata. Esatto, infatti. Bene Carlo, sì, scusami se ti ho parlato sopra, come al solito ogni tanto mi dimentico, parto per la tangente. No, sì, no, dicevo, bene Carlo, vai, andiamo con... partiamo, diamo il no, via. Dicevo, sì, stavo confermando quello che dicevi tu, che nel senso che il fatto di come comportarsi e del fatto che giocavamo anche molto all'esterno con gli amici eccetera è la modalità con cui ci divertivamo. Oggi invece la puntata è proprio dedicata ai giocattoli, sì, per sì. se stessi, sì, sì. Perché poi particolarmente ho voluto dedicare nell'ambito di quando eravamo futuro una puntata ai giocattoli e perché c'è un fatto particolare da dire come premessa a tutta la puntata, è che proprio nel periodo che noi prendiamo in considerazione con quando eravamo futuro, quindi gli anni 70 e 80, c'è stato effettivamente la prima volta nella storia un boom incredibile dei giocattoli. Perché sì, è vero, i giocattoli c'erano anche negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60, forse negli anni 60 già negli Stati Uniti si andava verso quel qualcosa che poi è avvenuto anche da noi, negli Stati Uniti, il paese più ricco di quel periodo degli anni 60, ma di sicuro quello che hanno giocato i nostri genitori è stata una minima, fra quello che hanno visto, quello che hanno vissuto i nostri genitori, quindi i nonni dei nostri figli, è stata una minima frazione rispetto a quello che abbiamo vissuto noi. Noi abbiamo vissuto negli anni 70 e negli anni 80 il boom del giocattolo, in senso assoluto. Tutti potevano avere i giocattoli, non solo i bambini ricchi. E i giocattoli ne usciva uno al giorno? Dico, può essere, sì. Beh, non è così improbabile, non è così improbabile. Cioè, ce n'erano veramente tantissimi e ne nascevano in continuazione, sia di giocattoli di tipologie già conosciute, quindi inventate prima degli anni 70, sia di giocattoli che continuamente venivano inventati in quegli anni, in modalità diverse, in giocattoli di tipo nuovo che non erano mai esistiti prima, oppure revisioni di giocattoli, di giochi vecchi che venivano rivisti e rifatti. Sì, infatti, le tipologie erano infinite. Infatti, secondo me, più che la quantità, che sicuramente era esponenzialmente maggiore, è anche il fatto che si trasformava proprio anche il giocattolo. Cioè, nel senso, il giocattolo, certo, cominciava a diventare qualcos'altro. No? Cioè, quindi... Esattamente. Io ho tentato una piccola classificazione, la butto lì, ma è veramente minima. Ho indicato delle tipologie di giocattoli che due o tre a caso. C'erano i robot che lo facevano da padrone un po' per la storia della moda dei nostri, soprattutto qua in Italia, ma i robot in generale, anche non legati ai personaggi, quindi all'action figure, i robot erano sempre stato e sono sempre stati un gioco che ai bambini piaceva anche prima. E i giochi a molla, quindi che venivano caricati a molla, questi sono un po' scomparsi, anzi credo quasi scomparsi, almeno non ne vedo traccia negli anni recenti, il fatto che tu caricavi un gioco col meccanismo a molla e questo faceva qualcosa, i giochi da tavolo, i trenini, le macchinine, i giochi raccomandati, le action figure che erano i robot personaggi, ma anche i supereroi, ma anche qualsiasi altro diciamo personaggio con cui giocavi, i giochi tipo elettromeccanici, tipo i flipper, i giochi che volavano, gli aerei che caricavi con l'elastico, gli alianti, i giochi delle costruzioni, di cui abbiamo detto Lego fa la parte maggiore e lo vedremo, ma per esempio c'erano anche i giochi tipo il meccano, che erano costruzioni meccaniche, o giochi cloni del Lego come Plastic City, o i modellini da costruire, i giochi raccomandati, radiocomandati, li ho già detti, Davide, detti prima. E non lo so, hai detto raccomandati. Radiocomandati. Sì. Sì, in effetti mi domandavo che so i giochi raccomandati, però vabbè, ho detto, erano tempi di democrazia cristiana. È stata una giornata lunga, oggi vi dico che è stata una giornata dal punto di vista lavorativo abbastanza pesante, infatti ho avvisato Simone dicendo arriverò al pelo, poi sono riuscito ad arrivare comunque in orario, ma praticamente non ho neanche mangiato, quindi quella è la cosa più grave, comunque. Esatto, quella è la cosa più grave. I modellini da costruire, miliardi di tonnellate di modellini da costruire, tutta la serie dei giochi educativi che vanno dai giochi musicali come le tastiere, eccetera, i giochi logici, le tastiere, mi ricordo i marchi tipo Buontempi, i giochi logici Quercetti, ve li ricordate? Tutti i giochi come il Pongo, il DAS, il Bernie DAS serviva per elucidare il DAS, i puzzle, Ravensburger, eccetera, eccetera, no? Tutta la serie dei giochi da tavolo, i Monopoli, i più famosi che mi vengono in mente, Monopoli, Scarabeo, Risico, il Jenga, gioco dell'oca, sono quintali. Tutta la serie dei giochi di ruolo, che anche lì ci sarebbe da farci una puntata aperta. Sì, quello, sì, giochi quello. Di Dungeons and Dragons derivati. E arrivando fino ad arrivare anche ai giochi classici che comunque venivano riproposti, dei giochi delle dame, i giochi degli scacchi, i giochi delle carte, che diventavano miliardi di giochi nuovi di carte, perché si evolvevano anche quelli. Ricordiamo anche uno, è nato in quegli anni lì, che è un gioco di carte, ma ce ne sono tantissimi. Quindi quindi ho già fatto un elenco, come vedi, ma la cosa che vorrei fare adesso è, come ho scritto, magari dei giochi specifici, dei più famosi, ognuno di noi magari dice quelli che si ricorda, che ha vissuto, ovviamente saranno una piccola frazione, ma prendetene uno e iniziamo magari a parlarne. Quindi farei il giro, adesso iniziamo, magari passiamo la palla a Davide e inizierà lui dicendo dei giochi di quando era piccolo, giochi, quindi giochi proprio giocattoli, quali sono quelli di cui si ricorda che ha amato di più, che a parte il Lego ovviamente, che so già che quello sarà il suo posto d'onore, ma andiamo dopo il Lego e vediamo che cosa si ricorda. Intanto Angela in chat ci dice che i puzzle lei li fa ancora. Vabbè, sì, in effetti i puzzle sono eterni, dai, quelli non si smetteranno mai di fare. Beh, oddio, non è così facile oggi trovare gente che ha la voglia, anche il tempo e lo spazio soprattutto, perché alcuni puzzle, il Lego si fa ancora oggi, non è che andate in moda. No, è vero. Cioè, magari sì, però il Lego è una, cioè, a parte la cosa stupida, il Lego è una cosa da anche da veramente da amatori. Comunque, cioè, per esempio, per parlare di un tema che conosciamo, chi è collezionista dei computer è perché ha lo spazio per poterlo fare anche, no? Oltre a essere un particolare amatore, no? Nel senso che non tutti hanno comunque le condizioni. Io per esempio mi ricordo, facevo dei puzzle con mia madre giganteschi, ma c'avevamo un tavolo nella sala da pranzo che non usavamo mai e che quindi alla fine utilizzavamo quello, ma cioè non era... Oggi le case sono un terzo di quelle che erano una volta, ad esempio, perlomeno per la mia esperienza, no? E quindi alla fine è tutto un po' diverso, no, da quel punto di vista. Però è bello il fatto che qualcuno ancora li faccia, insomma. Comunque, Davide, scusa. Sì, sì. No, dicevo, io voglio iniziare con un gioco che, siccome io sono un pochino più vecchio di voi appena, sono riuscito a vivere in un periodo dove effettivamente i giocattoli erano molto pochi. Erano i classici giocattoli degli anni 60, che io negli anni 70, io sono del 65, per cui da bambino erano anni 60. Ho cominciato a vivere, per cui i primi 5 anni della mia vita, con i giocattoli che c'erano negli anni 60, che per noi erano i giocattolini, le macchinine di legno, il cavallo d'ondolo, che ne so, giocattoli molto classici. Però uno dei primi giocattoli che penso sia abbastanza dimenticato da tutti e per molti di voi sarà sconosciuto, forse, le palline click-clack, che non vi dice niente, giusto? No, detto così no. Erano due palline attaccate a due corde che si tenevano in mano e si cominciavano a far rimbalzare, okay, sì, fra di loro. E poi piano piano cominciavi a farle rimbalzare sia sotto che sopra. Quando prendevano male il rimbalzo, ti arrivavano sul polso delle palline, sulle nocche anche, sulle nocche. Quel gioco lì era un gioco talmente scemo, se ci pensi, che era proprio un gioco scemo, che alla fine serata avevi la mano viola tutto distrutto E lì era figo quello che era bravo, che andava avanti 10 minuti senza spaccarsi la mano. Invece noi ragazzini, insomma, io vedevo più che altro i miei fratelli che giocavano quello, perché era già un gioco da grandi, se vogliamo, no? Perché era pericoloso, obiettivamente. Oggi sarebbe vietato un gioco del genere. Molti dei giochi che facevamo noi erano pericolosi, cioè in generale. Una cosa che non ho detto, tantissimi dei giochi che c'erano all'epoca, moltissimi non ci sono più, proprio perché sono pericolosi. Adesso troppo pericolosi, certo, rispetto all'età, insomma. Qua sì, è mortale. E questa è una curiosità del gioco che tante persone glielo racconto e mi dicono: ma che cacchio di gioco è, che non l'ha mai visto? Eppure era davvero popolare, era tantissimo, cioè proprio ce l'avevano tutti, magari costava anche poco, costava all'epoca magari costava 100 lire quel gioco. No, io questo me lo ricordo, quello delle palline, ma non sapevo che si chiamavano palline tic tac. Noi lo chiamavamo click clack, però in realtà chissà come si chiamava. No, infatti ognuno ha nel suo, è uno di quei soliti giochi che avrà un nome diverso per ogni luogo dove può essere. Mi ricordo anche una variante tipo con una racchetta in mezzo e le due palline attaccate. Può essere, sì. Poi chiaramente, come quasi tutti i giocattoli, qualcuno mette l'idea e dice bello, e poi arrivano tutti i cloni, in coda arrivano tutti quelli che fanno le varianti e mangiano sull'idea di partenza che era quella buona di fatto, no? C'è, cioè, Ruggio che ci fa sapere che esistono dei tappetini che si arrotolano quando i puzzle non sono completi. Ok, no, non sapevo io. Allora, io fino a qualche anno fa facevo puzzle, poi adesso effettivamente il tempo è un po' quello che è. È proprio uno molto grosso da 6.000 pezzi che ci voleva 6 anni per farlo, anche perché ho scelto uno di quelli proprio, mi sono voluto far del male proprio. Non c'è un pezzo uguale all'altro di 6.000 pezzi. È un mosaico di icone di una chiesa con 5.000 icone sopra disegnate, tutte diverse. Ah, io pensavo che era un Ravensburger, che era un enorme, che era una marca strana, un enorme gradiente dal celeste all'azzurro. Ne ho fatti tanti, ho fatto anche dei time lapse sui quei puzzle che ho fatto. Ti piacciono proprio i time lapse a te? Non lo so, così mi piaceva l'idea. E bene. Vabbè, sempre in quegli anni, se posso dirne un altro, certo, come no? Sempre da quando ero piccolo, e che è un gioco che non so, anche questo forse oggi c'è in altre forme, però diciamo che all'epoca era molto famoso, ma che quando lo racconto sembra quasi un gioco alieno mai visto, ma è una banalità, che era quello dei chiodini colorati. C'era una base con tanti buchi e aveva un quintale di chiodini colorati, poi potevi seguire delle istruzioni mettendoli come dicevano loro e veniva fuori poi alla fine un'immagine in pixel art, in pratica veniva disegnavi pixel. Ti do una notizia, Davide, esiste ancora oggi e viene venduto ancora oggi, esatto, però è della Quercetti ed è ancora molto popolare tra i bambini piccoli. Però se chiedi in giro se va un gioco sconosciuto, boh, ma che gioco è? Più che altro, se non me lo dicevi, veramente non mi sarebbe mai rivenuto neanche in mente. Cioè, questo è, però è da questo che si accendono i neuroni. Dipende, mi sa, dall'età. Io ho due figli, una di 20, che ormai è grande, 20, che va verso i 21, ma l'altra è sui 10, e quindi frequento ancora, ho frequentato in maniera abbastanza assidua i negozi di giocattoli negli ultimi 20 anni, e questo della Quercetti è un gioco che spesso si trova, soprattutto se vai nei negozi di giocattoli, quelli, diciamo, quando vai perché dici voglio prendere il gioco educativo serio, no? Sai, quelli che hanno la vetrina con tutti i giocattoli di legno fuori. Sì, quelli. Ecco, che costano lì dentro lo trovi tanto. Sempre lo trovi, ma anche ai negozi tipo Toys, quelli famosi, c'è la sezione giochi educativi e lì dentro trovi ancora i giochi della Quercetti, tra cui questo qua dei pirulini che si inseriscono e fai le immagini pixel art ante litteram, diciamo. Sai che non ci ho mai pensato. Negli anni 80, anche tu c'hai ancora della documentazione storica dove disegnavi su foglio di carta a quadretti, facevi tutti i pixel e poi di fianco ci scrivevi in binario tutto il coso per poi inserirlo nel computer, no? Ecco, però chissà che non ci ho pensato, in realtà se avessi avuto uno di quelli con tutti i pirolini ti facevi e lo vedevi l'effetto finale, dicevi bello, mi piace lo sprite, poi lo prendevi e facevi il binario, chissà perché non l'abbiamo mai sfruttato. Era un'idea intelligente. Facevi prima col foglio a quadretti, ma col foglio a quadretti si potevi colorare un casino, poi se sbagliavi non potevi togliere il pirolino e ricorreggere, capito? Era comodo, era intelligente. Dai. Ah, però non lo ricordo pure io sta cosa dei pirulini, dei chiodini, in effetti. Però ti dico, non è una cosa che mi sarebbe venuta in mente a me come tipo di... Ma... Boh, chi lo sa. E poi ve ne dico un'altra, per dirvi quanto ci divertivamo con niente. Esiste un gioco che io chiamo il barattolo che muggisce. Era semplicemente un barattolo che se tu lo capovolgevi faceva. E come no? Basta. È famoso per una cosa questo. Simone dovrebbe saperlo. Non te lo ricordi? Mi ricordo che c'è un del THX. Esatto. Okay. THX. Ok, sì. Bene. La sigla del THX era fatta col barattolo che muggisce. Ah, ok. Non me lo ricordavo. L'ho cercato poi su YouTube. THX nei cinema, c'era la sigla iniziale del THX che era fatto col tizio che girava il barattolo e quando lo rigirava in THX diventavano centinaia di mucche che muggivano. Sì, è vero, sì, sì. Ha ragione. Dunque, pensate che quanto era famoso e popolare, perché ci hanno fatto addirittura una sigla, un gioco che era un barattolo che faceva muggire. E io ogni volta che arrivavo a casa di mia cugina che ne aveva uno, arrivavo lì e per mezz'ora ma in realtà più che un giocattolo in sé, cioè era un giocattolo, era una di quelle cose che tu usavi per fare gli scherzi o per che ne so, per trarre un po' in inganno le persone, no? Tipo che cos'è, dov'è, che capito, tipo che tipo... era fedele, nel suo piccolo era fedele, sì sì, no, assolutamente, assolutamente, tipo che ne so, il cuscino, quello che faceva le scureggio praticamente, non so se... certo. Sì, entriamo nei giochi di scherzo, lì ce n'erano tantissimi. È vero, ho fatto venire in mente le fialette puzzonette. Vabbè, quella è roba di carnevale, quella roba di carnevale. Chissà se esistono ancora ste menate, insomma. Sì, esiste tutto, esiste ancora. Bene, vabbè, mi fa anche piacere tutto sommato. Vai Davide, continua. No, niente, poi vabbè, io giochi tradizionali come le biglie, stiamo sempre andando un po' in cronologia, sì. Perché le biglie ovviamente adesso esistono ancora, se vogliamo, ma credo che non ci giochi più nessuno a biglie. Però al mare d'estate i bambini ci giocano ancora. Sì, io impazzivo per le biglie. Cioè, le biglie a me facevano impazzire non tanto il gioco in sé, che sì, mi piacevano proprio come oggetto. C'erano alcune dentro con dentro i colori. Quelle c'erano alcune, sì, che erano bellissime. Chiamavamo madreperla. E poi c'erano quelle colorate, quelle non c'erano tanti modelli, biglioni, le biglie, le biglie di vetro, quelle che facevano, che erano tutte luminose con un sacco di colori dentro, no? Oppure che ne so, quelle verdi, insomma, c'erano anche quelle metalliche, se non mi ricordo male. Sì, c'erano quelle metalliche, però c'era poi una sorta di collezionismo anche di biglie, no? Che ti piaceva avere tutti i tipi, modelli, eccetera. E poi si giocava e le vincevi con gli amici, eccetera. Giochi davvero molto semplici, ma che ci facevano passare i pomeriggi con tre palline in mano. Sì, capito? Sì. Beh, io c'avevo il mio sacchettino, perché per me erano le mie pietre magiche praticamente. Non so, avevo sta mania un po' così da averci queste cose colorate. Tanto vedo che linkano il THX nella chat. Ah, hai visto. Poi vabbè, figurine come le consideriamo? Le consideriamo giocattoli o no? Oddio. No, dai. Andiamo nell'editoria più che nel collezionismo. Diciamo che i giochi di carte con le figurine sono più recenti, se vuoi, non sono della nostra epoca, iniziano più tardi. Esatto. Noi negli anni 70 usavamo le figurine per fare ovviamente lo scambio, facendo cielo manca, cielo manco, oppure però si giocava. Però facciamo l'album. Sì, facevamo l'album, ok. Però poi dopo, quando andavi con gli amici, si giocava alle figurine, nel senso che contro un muro si tiravano facendo una mossa. Ma allora ci mettiamo dentro anche gli aeroplanini di carta, capito? Cioè sono cose che tu costruisci e ci giochi. No, diciamo che secondo me le figurine siamo un po' fuori, insomma. Poi potremmo trovargli la loro sua collocazione. In cortile con gli amici ci siamo passati. Se ci mettiamo dentro, allora diventa poi il gioco del pallone, il gioco del nascondino, ma quelli sono giochi, non sono giocattoli. Esatto. Noi dobbiamo parlare, questa è una dei giocattoli, non dei giochi. Che sono concludo intanto questa parte, poi dopo lascio la parola con il Viewmaster. Che quando mi è capitato per le mani la prima volta, mi è caduta la mascella e non smettevo più di guardare sto coso Era tra l'altro erano delle foto di una cosa stupidissima che non ricordo cosa fosse, era, non so, si vedevano delle patate o delle mele che sul tavolo, era frutta, una roba così. Però il fatto che si vedeva tridimensionale, io lo guardavo, cioè sembrava vero. Sai che sono rimasto imbambolato per settimane con sto coso? No, ViewMaster spiega esattamente cos'è, perché molti non lo sanno. Io non lo so. È un visore che ti consente di fare una visione stereoscopica, quindi vedere un'immagine tridimensionale attraverso un affare di plasma, sembra un cannocchiale, mettiamola così, dove si infilava dentro un dischetto che aveva delle diapositive che si posizionavano davanti agli occhi, in pratica, una a destra e una a sinistra, e quindi si vedeva un po' come i visori per le diapositive, solo che era stereoscopico, cioè se ne vedevi una diversa, l'occhio destro ne vedeva una, l'occhio sinistro ne vedeva un'altra, e si formava questa immagine tridimensionale. Questo disco poi aveva sto apparecchio aveva una levetta che la giravi, la facevi clic e girava il disco e faceva vedere un'altra immagine. Ogni dischetto aveva tipo 6 o 7 immagini, una cosa del genere. E vendevano poi tutti i dischetti di cartoni animati, di personaggi di cartoni animati, della Walt Disney, insomma, facevano tanti dischetti, e il commercio poi era quello di vendere i dischetti con pellicola. Ho visto la bella immagine sulla chat, quando poi la vedrete. Il ViewMaster veniva venduto spesso anche nei luoghi turistici. Se andavi a visitare la Torre di Pisa, se andavi al Colosseo, eccetera, c'era il ViewMaster fuori nei gadget che te lo davano col dischetto della città, quindi la vista di Roma piuttosto che di Firenze, piuttosto che di Pisa, eccetera, eccetera. E comunque io da bambino, non conoscendo ancora la tridimensionalità, come funzionava, io era un affare magico, era proprio magico. Io sono rimasto, quando l'ho guardato, non ci credevo, non so, ho avuto proprio una sensazione incredibile quando e poi ovviamente col senno di poi sappiamo che è una cosa molto semplice, però all'epoca fu veramente colpo. Poi in realtà andavano molto questi oggetti con i quali vedevi o diapositive oppure direttamente i film. Io mi ricordo c'era un giocattolo a forma di cinepresa con la manovella che tu giravi e dentro faceva girare la pellicola del cartone animato. E ovviamente certo, non c'aveva neanche la luce dentro, quindi dovevi usare la luce del giorno. Tu inquadravi verso la luce e quello ti faceva il sole. Il sole ti bruciavi la rete. Me lo ricordo sempre come ultima di copertina di Topolino. Perché ricordiamo che poi il veicolo pubblicitario maggiore di tutti i giocattoli che desideravamo e che venivano desiderati era l'ultima di copertina di Topolino, cioè la parte dietro il fondo di Topolino c'era sempre la pubblicità del giocattolo più desiderato del momento. C'erano anche gli occhiali a raggi X, ricordate? Sam e Gofi. Fatto vedere in mente Sam e Gofi. Quelli erano in altri tipi di giornalini, un po' più avuti, dai. Sì, comunque quelli là, i famosissimi occhiali a raggi X che... Esatto. Vabbè, comunque sì, è vero quello che dice, che comunque la pubblicità su Topolino faceva tanto da quel punto di vista. Sì, era assolutamente il veicolo. Poi sono diventati gli spot pubblicitari nelle TV private quando è esplosa la TV privata, ma prima dell'esplosione della TV privata era la terza di copertina di Topolino, era il veicolo principe di questi giochi, insomma. Simone, ho visto che hai segnato un gioco a cui abbiamo giocato penso tutti da piccolo come primo gioco. Allora, ricordi? Allora, no, aspetta, prima volevo leggere un attimo quello che ha scritto PRG in chat, che lui dice si ricorda un gioco fatto, cioè che c'era un labirinto che tu dovevi muovere, andava a 100 lire e se riuscivi a far arrivare la pallina giù in fondo vincevi la biglia. Me lo ricordo anch'io, sì, una cosa del genere, che erano meccanici poi quei giochi, no? Esatto, col volante. Gli do una notizia, c'è ancora. C'è ancora, bene, bene. No, se vai al mare, da qualche parte esiste ancora. Che tu muovevi il piano, ancora. Lo giravi a destra, lo inclinavi il piano, facevi muovere la pallina fino a che non arrivava giù e quella me la... Mio figlio, tutti i giorni che andavamo in spiaggia, anche l'anno scorso che ci siamo andati una settimana, lui doveva giocare a quello lì e vincere la pallina prima di tornare in albergo, quindi c'è ancora. Quelli che invece si vinceva la cicca, che quando quando era forma sempre di pallina, arrivavi giù e te la mangiavi. E torniamo, e torniamo al discorso della cicca, no? Che era un termine che si usava al nord e che da noi significava un'altra cosa. Comunque, volevo dire che io ho fatto il mio elenco, cioè nel senso ho aggiunto anche commenti sull'elenco esistente, ma in realtà questa cosa dei giocattoli è spaziale, cioè nel senso è una cosa di quelle che tu inizi a parlare con una persona di quel giocattolo, te ne vengono in mente tre, poi quando sono 20 minuti che tu parli già te ne sono venuti in mente un altri 100, no? Perché giustamente, come diceva anche Carlo nell'introduzione, a parte i giochi, proprio i giocattoli con i quali giocavamo dentro casa, c'erano i missili quelli ad acqua che sparavano, i razzi che partivano, l'UFO Solar, c'erano 100 milioni di giochi. Ed è secondo me per questo che la nostra generazione lì per lì dice fammi l'elenco dei giochi che giocavi, te ne vengono in mente 10, no? Magari. Ma perché c'erano talmente tanti e più o meno ce li abbiamo avuti quasi tutti. Comunque, se non li abbiamo avuti, li abbiamo visti. Visti, esatto. Comunque, se non ce l'avevi, ce l'aveva l'amico tuo. Insomma, questo... esatto. Ricordiamoci che quando andavo in giardino andavo con altri 20 amici, probabilmente, e ognuno aveva un gioco diverso, magari dal mio, e giocavamo un po' col suo, col mio. Esatto, e condividevamo anche i giocattoli a volte. Esatto. Insomma, il gioco io gli davo il mio, lui mi dava il suo, e si giocava un po' assortiti. Allora, il mio primo gioco che ho messo insomma nell'elenco, anche se già c'era in realtà, è il Subbuteo, e che è ovviamente una cosa che ha citato anche Roberto nel suo elenco, perché penso che al Subbuteo più o meno ci hanno giocato tutti. Per chi non lo conosce, il Subbuteo era una riproduzione da tavolo del gioco del calcio, con delle regole particolari, perché comunque si differenziavano. Ad esempio, non potevi tirare prima di una certa posizione, perché sennò era facile, cioè tu dal portiere tiravi, potevi già segnare, insomma non è che si giocava ovviamente spostando questi personaggi, i pupazzetti. Però poi in realtà il Subbuteo, oltre al suo tecnicismo e alla sua complessità anche come gioco, perché comunque bisogna essere bravi a giocare a Subbuteo, sia nella fase d'attacco che nella fase difensiva, anzi forse nella fase difensiva ancora di più. E in realtà poi il Subbuteo è anche diventato un oggetto culto da collezione per molti, al di là di chi ci faceva i tornei, i campionati nazionali, internazionali e via dicendo, c'erano le squadre da collezione. Io ad esempio ho la Lazio del -9, quella con la maglietta, quella stilizzata, che era un'eccezione, perché di solito comunque le squadre erano tutte più o meno standardizzate. Poi a un certo punto hanno cominciato a uscire le squadre con le magliette corrette, con gli sponsor, con il loghetto, anche se era praticamente invisibile. Però il fatto che comunque c'era questa maggiore cura in certe edizioni di certe squadre lo rendevano praticamente adatte anche al collezionismo. Infatti io ancora qualcosa ce l'ho a San Savino, nelle Marche, conservato in delle teche, di cui una di queste squadre me l'ha distrutta Matteo e ho bestemmiato con il sorriso, naturalmente, perché non si può col sorriso ho bestemmiato. Ma io addirittura c'avevo lo stadio del Subbuteo, lo stadio con tutti gli spettatori, che compravo le bustine. Io mi ricordo che ogni settimana andavo a comprare 10 bustine di spettatori, ne compravo 2 già colorate e le altre 8 le compravo non colorate, cioè che le dovevo colorare io praticamente, mettevo lì. Ma e le erano colorate. Tipo, erano praticamente 5-6 pupazzetti che stavano in 5-6 posizioni diverse, esatto, che però poi si ripetevano in continuazione. Solo che quelli colorati costavano tipo 3-4 volte tanto di quelli non colorati, e quelli non colorati tu li prendevi e te li coloravi da soli. Ma addirittura con mia madre e mia zia noi facevamo pure gli striscioni, gli standardi, insomma. Vabbè, per me il Subbuteo è stata una gran passione, insomma, proprio. Ma quello stadio lì dove è finito adesso? Qualcosa dovrebbe starci ancora a San Savino, però purtroppo penso che è difficile che riesca a ritrovare, forse un pezzo di curva, qualcosa, perché purtroppo devo dire la verità, e questo a me mi è successo con tante cose. Forse noi non eravamo una famiglia che si rendeva conto del fatto che queste cose sarebbero diventate magari oggetti da collezione, quindi magari le cose le abbiamo buttate semplicemente. Però ecco, lo stadio coi fari, mi ricordo i fari, che tra l'altro facevano sta luce fioca, tu vedevi dai foto il faro, cioè, immaginavi, oh, questo fa un sacco di luce. E mi ricordo una cosa, qui vai, chiudo e vado avanti, cioè nel senso, perché sennò, però sta cosa del Subbuteo mi ha proprio acceso tanti ricordi, che io con la mia cinepresa Super 8, mi ricordo che feci questa inquadratura come se fosse, come posso dire, l'inizio, cioè il prepartita di un match importante, e avevo messo praticamente fuori dallo stadio come si chiamano quelli che fanno le stelle filanti, no? Quelli che fanno de Capodanno, insomma, no? Quelle lunghe che fanno solo le scintille fondamentalmente. Però facevano queste scintille, ma facevano pure un sacco di fumo, e quindi c'era tutto questo effetto di fumo intorno allo stadio, che praticamente sembrava, che ne so, che magari c'erano stati gli scontri, delle cose. con la cinepresa riprendevo tutto. Insomma, vabbè, questa se ritrovi quel filmato lì. Chissà. Oddio, quello è più complicato, perché lì addirittura proprio in pellicola, neanche in nastro, insomma. Poi se vuoi quello potremmo riversarlo. Sì, se lo riesco a trovare. Poi il Big Jim, come ovviamente, poi penso che ne parlerà pure Carlo. Sì, insomma. Adesso quello l'avevo segnato io, perché quello è un po' il giocattolo che non è quello veramente, non so, esiste ancora Big Jim? Che io sappia non li ho non lo so, non c'è la più pallida idea. Penso di sì. Esiste, però è molto diventato quasi. Beh, sicuramente esiste la Barbie, questo sicuro. Cioè, nel senso, la Barbie, quella è strasopravvissuta. Sì. Io adesso sto per dire una cosa che mia moglie chiamerà l'avvocato immediatamente, ma intanto proprio per manifesta pazzia. Perché in realtà rubavo le Barbie a una mia cugina. Le spogliavo e gli ciucciavo le tette. L'ho dovuta dire sta cosa, mi dispiace, ma l'ho dovuta dire, perché in realtà me lo ricordo proprio bene sta cosa, capito? Cioè ero, capito, pomisciavo con la Barbie. Ti portavi avanti, sì. Sì, vabbè, era un modo per la ciucciavi come un ciupa ciupa, però praticamente. In realtà era un modo di esplorare, no? Che cazzo ne so, insomma, vabbè. E direi di sì, anch'io le Barbie le spogliavo e le osservavo, però è stata una delusione. Quella anch'io, sì, mi ricordo, tutti abbiamo prima spogliato la Barbie. Spogliare la Barbie, esatto. O spogliata direttamente, ma sotto non c'era niente, quindi finiva lì poi l'esplorazione. È stata un po' una delusione. Comunque, vabbè, poi facendo io, ma dico un altro paio di cose, poi lascio a Carlo, perché poi in realtà c'è delle elenco che ho continuato a fare su una cosa, cioè per esempio io penso alla lavagna magica, ma ricordate la lavagna magica? Ci avete, certo, presente qual era? No? Quella praticamente che tu avevi due manopole, no? Quella faceva a destra, quello faceva a destra a sinistra e quella faceva sopra e sotto, e ci disegnavi, no? Poi la scuotevi e quella ritornava. Quella è diventata calda anche dopo Toy Story, nelle nuove generazioni, perché vero, vero. Personaggi di Toy Story, vero, vero, che era graffite dentro un colore, sì, sì, grigio. Però al di là delle cose particolari, io per esempio c'era l'arco con le frecce, che poi le frecce c'avevano la punta praticamente con la ventosa, no? Che non, uh-huh, non è che di per sé facevano meno danni, perché se prendevi il vetro dalla finestra comunque rompeva. No, non fanno meno danni perché mio figlio ce le ha e distrugge tutto. Esatto, esatto. Cioè, voglio dire, cioè, nel senso, purtroppo quella è una di quelle cose. Adesso ci sono le Nerf. Le Nerf, c'ha anche le Nerf mio figlio, ovviamente, sì. Però fa più danni con l'arco con la punta ventosa delle Nerf. Vabbè, poi le Nerf sono di gomma piuma alla fine, quindi. Vabbè, a parte il modellismo vario, che lì veramente penso che anche questo forse è una cosa sulla quale farò una puntata, forse non, magari se non c'entra niente con quando eravamo futuro, anche lì sono bei racconti. Io ricordo c'era un aereo dell'Alitalia gigante, cioè tipo, boh, sarà stato 40-50 centimetri, cioè era proprio grosso. E mi ricordo che praticamente con un amico mio gli avevamo dato fuoco e l'avevo buttato di sotto simulando un incidente aereo. Costava 100.000 lire, costava. Ma io non me ne, cioè, ce l'avevi con i e le fiamme fuori dallo stadio e l'aereo. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Io ero un mezzo piromane. Ma solo con i trenini avevi fatto l'incidente ferroviario? No, o quello l'hai saltato? No, l'ho fatto con le macchinette dei carabinieri, cioè tutte in fiamme. E sempre con la cinepresa Super 8 che riprendevo tipo dall'elicottero, ecco, attenzione. Vedete, c'è questo incidente terribile. Avevi già questa mania registica? Sì, no, ma io era proprio una. una cosa meravigliosa. Ma poi vedi, per farti capire che poi molti giochi erano i giocattoli, ma molti giochi erano quello che ci mettevi tu, no? Perché poi certo, è questo, insomma. E poi vabbè, e poi diciamo il Pongo, il Dash, la plastilina, tutte quelle cose che hai citato anche te, Carlo, insomma, che, vabbè. E la pista delle macchine, vabbè, vai. Io ho segnato nei giochi, come ti ho detto prima, quello che hai citato prima, Big Jim, perché veramente col Big Jim ci ho giocato tantissimo. Proprio io mi ricordo da piccolo ci passavo i giorni a giocare, a inventarmi le storie col Big Jim. Allora, uno c'era da dire che, diciamo sempre, la terza di copertina di Topolino, il fumetto usciva e in fondo c'era la pubblicità del Big Jim. Quando usciva il Big Jim nuovo, che faceva delle cose nuove, cazzo, dovevi avercelo. Cioè, io mi ricordo in assoluto che ho desiderato tantissimo e ho scritto la letterina a Gesù Bambino, perché noi a Milano scrivevamo, non so se confermi tu Davide, ma noi si scriveva la lettera a Gesù Bambino. Se, io era meglio che non gliela scrivevo la lettera a Gesù Bambino. Comunque, per avere i giocattoli, a Natale ho desiderato tantissimo il Big Jim con la faccia intercambiabile. Ve lo ricordate? Big Jim 007. No, non me lo ricordo, però sì, sì. Aveva la valigetta, sì, sì, con le facce, sì, sì, si cambiava la faccia, Westworld. Sì, sì, sì, sì. Personaggio. Me lo ricordo, me lo ricordo. Incredibile. E poi il Big Jim che faceva gli schiacciavi la testa, faceva la faccia arrabbiata, la faccia normale, che anche si arrabbiava, sì, cioè girava, sì, sì, che testa girava, bravo, bravo, bravo. E poi il classico Big Jim con il kimono che spaccava la tavoletta di legno schiacciando dietro la schiena con la mano. Io solo quello mi ricordo quello che se schiacci la schiena dava con la mano, ti dava la porta, te lo vendeva nella no, ma in realtà il Big Jim, se ci pensiamo, era un po' il Chuck Norris ante litteram, perché io mi ricordo che sapeva fare tutto, cioè, c'era anche Big Jim calciatore, se vi ricordate. Sì, c'era tutte le versioni, ma diciamo che quelle che andavano per la maggiore erano stile Chuck Norris, quindi karate che spaccava la tavoletta e poi spia 007 o comunque uomo di azione. Io poi ovviamente lì volevo tutto, c'era la macchina, c'era la Jeep con dentro il Big Jim, esatto, e soprattutto mi ricordo il Natale che mi è arrivato l'elicottero di Big Jim. Ah, grande, quello ce l'avevo, quello gigante, che ci mettevi la mano dietro per far girare le pale. Ma quello ce l'avevo pure io, sì. Giravi, schiacciavi, giravano le pale dell'elicottero e in più sparavi l'acqua, tipo pistola d'acqua. Sì. Davanti c'era il mitra che sparava l'acqua. Meraviglioso. Fantastico quel gioco. E quello veramente mi ricordo. Io e mio fratello col Big Jim si inventavano tutte le storie, quindi del film, quindi faceva tutte le variazioni da salva, devi salvare la principessa, cosa salvi? Poi non c'era la donna Big Jim, quindi si usava la Barbie. Peccato che sì, Barbie era di una marca, di una serie, Big Jim di un'altra, eppure stavano bene insieme, perché Big Jim era basso, la Barbie era alta. Io eppure ero convintissimo che la Barbie fosse la moglie di Big Jim, cioè, quando ho scoperto che era Ken, per me è stata una delusione, anche perché cioè vuoi mettere Ken tutto un po' così, serie che non c'entrano, infatti anche come proporzioni erano sbagliate, cioè la Barbie era più grande del Big Jim come a livello di proporzioni, ma superava tipo Carlo, se in realtà Big Jim fosse alto 1,40 e la Barbie 2 metri. Sì, Carlo, a Big Jim non gli serviva essere più grosso da Barbie. A Big Jim se le schiacci dietro viene fuori lo staccibra. Sì. Vabbè, comunque per me è stata una grossa delusione, anche perché Ken, diciamoci la verità, sono un po' tutto effeminato, quindi sì. Michela ci scrive in chat: mia nonna comprava un dischetto ogni volta che andava a fare una vacanza con il club dei vecchi, insomma, fondamentalmente. Quindi mi sta parlando sempre del binocolo, quello che dicevi te, del Viewmaster, certo. Vabbè, comunque, un'altra delusione erano che, se vi ricordate, gli spot televisivi dei Big Jim e di quelle robe lì, li muovevano in un modo talmente plastico che sembravano veri. Non erano animazioni, erano loro che li muovevano, dei manisti, li muovevano in maniera, sembrava che camminassero per davvero, che si giravano, che parlavano, che facevano le cose, no? Vabbè, se vai a vedere la pubblicità, facevano, quando tu compravi una cosa perché la vedevi sulla pubblicità in televisione, quando la vedevi dal vivo non era mai, non te faceva mai lo stesso, cioè, ti sentivi un po' inculato, capito? Cioè, nel senso, come panini. Se ti devo dire la verità, quando ero piccolo mi è capitato poche volte, nel senso che quando vedevo una cosa pubblicità e poi mi arrivava ero contentissimo ed era fighissimo. Pure io ero contento, però a volte sembrava anche il Big Jim, come diceva prima Davide. Io in realtà quando ero piccolo mi arrivava il Big Jim che era tutto snodato, si muoveva, faceva le azioni, cioè quello che facevi nella pubblicità lo facevi a casa, ricostruivi con la tua immaginazione tutto il film, tutta la tua storia inventata, in cui succedeva di tutto, insomma l'avventura che succedeva di tutto. Poi sicuramente mi ricordo, ecco, prima hai citato Subbuteo, Simone. Il Subbuteo fa parte di quei giochi bellissimi, ma non ci giocavi da solo. No. E nella nostra infanzia erano veramente tantissimi i giochi di società, perché come diceva prima Davide, e questa è veramente una differenza, stavamo sempre in compagnia. Eravamo sempre in compagnia, non che non lo siano i nostri figli adesso, ma lo sono in modo diverso, perché adesso i nostri figli comunicano con internet, quindi non hanno bisogno di spostarsi per comunicare. Noi invece non potevamo, non c'era internet, quasi non c'era neanche il telefono, cioè era una roba che già stava arrivando il telefono in quegli anni, e quindi dovevamo incontrarci fisicamente, e ce n'erano tantissimi giochi che si facevano insieme fisicamente. E i giochi da tavolo nella nostra infanzia l'hanno fatta per la maggiore. Adesso diciamo che i giochi da tavolo sono quasi relegati a un mondo di adulti, no? Ma noi anche da piccoli giocavamo tantissimo ai giochi da tavolo. Io mi ricordo, a parte il Monopoli che ci avevamo giocato tutti, chi non ci ha giocato a Monopoli, ma soprattutto il Risico, ve lo ricordate il Risico? Beh, con Risico ragazzi sono finite le amicizie, io prendo la Kamchatka e mi... Sì, no, con Risico finivano le amicizie. Io mi ricordo scene brutte che non voglio ricordare proprio, cioè, persone che non vedo più da 20 anni perché abbiamo giocato a Risico insieme, quindi via. No, Risico. No, perché a differenza del Monopoli, che comunque sì, cioè, ti prendeva la botta dal matto capitalista, il Risico. Alla fine con la gente ci si infervorava, cioè aveva questa cosa della conquista del mondo, cioè proprio trascendeva il gioco, secondo me, sai? Perché cioè, come se fosse, c'era un mio. Esatto, c'era, si trascendeva un pochino su questa cosa. Ah, Pier G mi dice i fucili spara elastici, e io lo facevo con i tappi delle mollette. Esatto, le mollette, questa cosa. Quindi. Tanti giochi autocostruiti, questi tantissimi. Mi ricordo un volume che si chiamava Manuale Spaziale Tecnico Attivo di Capitan Harlock, era uscito in edicola per la Rai Eri Editrice, ed era un libro brossurato di Capitan Harlock, dove dentro c'erano sia i cartamodelli per costruire tutte le astronavi di Capitan Harlock con la carta, che quindi le ritagliavi e costruivi, ma soprattutto c'era scritto come costruire il fucile di spaziale di Capitan Harlock con legno, la pistola che poi sparava gli elastici, ovviamente. Ah sì, giusto, poi ovviamente il manuale delle giovani marmotte, come lo ricordo. Bello. Vabbè, però quello non ovviamente. è un giocattolo, nel senso che no, però costruivi giocattoli. Sì, facevi giochi e giocattoli, giochi e giocattoli. Io con quello avevo fatto, mi hai fatto venire in mente adesso, mi hai risvegliato, chi è che non ha fatto con i due bicchieri e il filo lungo? Ah sì, metto, tutti. E ci parlavamo, io quello l'ho visto sulle cose delle giovani marmotte. Sì, è vero, anch'io. Anzi, oltretutto tu, questa la diciamo perché è un compendio alla puntata. Davide, nella serie, nel suo podcast Survival Hacking, ha fatto una puntata dove parlava di giocattoli con cui giocava, no? Hai parlato tanto di Lego, vabbè, in quella puntata in cui hai detto della costruzione della gru, no? E tra parentesi, anch'io ho costruito la gru, ma non con il Lego, ma col meccano. Perché anche lì il meccano è stato un gioco per me nella mia infanzia in cui ho giocato tantissimo al meccano, ma veramente, ecco, il meccano, c'è da dire una cosa, è quasi scomparso, perché, e questo l'ho vissuto anch'io già ai tempi, perché io il meccano me lo ricordo negli anni 70 che era tutto di metallo, ruote di metallo, viti di metallo, pezzi di metallo, e costruivo veramente tanto. Io ci avevo costruito la gru con quello lì di metallo, e c'era metallo, qualsiasi cosa, anche le piattine eccetera. Quando poi me l'hanno regalato più avanti, verso gli anni 80, quando sono un po' cresciuto e volevo ancora il meccano, le confezioni nuove che arrivavano erano parti di metallo e tante parti di plastica, e credo che adesso negli ultimi anni sia entrato di plastica, ma già rimanevo desuso perché per esempio le basi in cui infilavi e incastravi le cose per costruire prima erano di metallo, nelle versioni nuove a farle di plastica già due o tre volte che avvitavi si spanava tutto, si facevano i buchi, non erano più rotondi e succedevano vari. Beh, anche so, perché comunque è questione di tossicità, di pericolo, non lo so. No, vabbè, ma costo, comunque perché pensa a farlo tutto di metallo adesso. Sì, sì, no, vabbè, ma una volta pure a livello costruttivo, lo dicevamo la puntata dei robottoni, quando io ho raccontato dell'Alcadia che c'avevo io, no? Dell'astronave lì di Capitan Harlock, sì, cioè gli oggetti erano tutti quanti o di metallo, plastica resistente, cioè erano fatti per durare quei giochi. È vero pure che se litigavi con l'amico tuo, io lo tiravi in testa, gli facevi male, cioè nel senso, alla fine, alla fine c'era da considerare tutta una serie di fattori, però chiaramente dal punto di vista costruttivo, se tu fai la stessa cosa con un risparmio tecnico proprio a livello costruttivo, cioè diventa un po' un problema, no? Poi mi è venuto in mente pure tra l'altro il piccolo chimico, oppure quello col... Sì, sì, quello l'aveva segnato Davide. Scusa. Però, finire, scusa, scusa, il scusa, discorso scusa. Di prima, che poi sono partito con il meccano, ma in realtà stavo facendo un altro discorso, che dicevo, c'è la puntata di Davide, di Survival, okay, dove sì, lui parla dei giochi, quindi ascoltatevela, cioè, non so se puoi dire... già messo il link, Hai già messo il link, perfetto, all'episodio. E in quella puntata mi hai tirato fuori un ricordo fortissimo, perché tu hai parlato di quando tu smontavi il meccanismo parlante delle bambole, che era quel mini registratorino con il mamma mini disco mia di plastica, sì, col dischetto, no? È vero, sì, che ho smontato anch'io, sì, sì, sì, sì. tiravi fuori sto dischetto di plastica. Poi lì Davide ha raccontato che lui aveva costruito un mini grammofono, no, con quella cosa. Esatto. Io non ho fatto il mini grammofono, però ovviamente, come tutti, tirando fuori quel giocattolo, capendo che funzionava con questo dischetto, che quindi tu sentivi meccanicamente l'audio del disco, allora ho fatto un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso. Siccome il coso delle giovani marmotte spiegava quella cosa lì dei bicchieri tirati con la corda, quello col filo, diceva di passare sulla corda della cera. Non mi ricordo perché, ma diceva di passare della cera sulla corda. Funzionava meglio, dai. con la cera, poi c'era spiegato che i primi grammofoni erano costruiti con la cera. Certo. Perché se il disco era un cilindro di cera. No, c'erano i cilindri che erano di cera, non il grammofono. Esatto, il primo grammofono funzionava con dei cilindri di cera, sì, quello inventato. Confermo. E allora io ho perso un sacco di settimane della mia vita a cercare di incidere sulla cera la mia voce, utilizzando quel meccanismo del coso delle bambole, cercando di metterci dentro della cera, parlando dentro in modo non riuscendoci, ovviamente, perché alla fine non funzionava, perché la cosa si poteva fare, ma serviva una precisione, esatto, decisamente maggiore di quella. In realtà avrebbe quasi potuto funzionare, teoricamente avrebbe potuto funzionare, però non riusciva a farla funzionare. Questo me l'hai tirata fuori tu col tuo racconto. Io già mi immagino la bambola tutta caruccia, che bella, tu te la prendi, che la voce di Sant'Agostino dice no. Io li tiravo fuori, era il cuore, come se tu tirassi fuori il cuore, mi fili la mano nel petto di una bambola, strappi il meccanismo fuori. Beh, anche il fratello di mia moglie gli smontava e decapitava tutte le bambole. Proprio. A tale proposito, vorrei ricordare che qui diamo il tuo contributo, che ce l'hai già pronto, che dentro a un famoso oggetto, famoso negli anni 70, che secondo me avevano tutti i bambini del mondo, perché è un prodotto proprio mondiale, che si chiamavano in Italia Un Sacco di Risate, mentre invece negli altri paesi si chiamava Laugh Box, eccetera. Era un sacchetto con una corda, con dentro uno di quei meccanismi della bambola, che se lo schiacciavi si metteva a ridere. Che poi è inquietante, diciamo la verità. Io la ricordo a memoria, sta risata. me la ricordavo quasi a memoria. Quando la sento, proprio la riconosco. Te credo. Cioè, secondo me, sai quanti bambini avrà traumatizzato sta cosa? Sì. E dentro c'era uno di quegli affari delle bambole uguale, identico, con dentro il dischetto della risata, che se tu lo toglievi e, e ci mettevi quello della bambola che diceva piangeva piuttosto che ridere, piuttosto che mamma ho fame, che no, quando parlavano erano quelli più inquietanti, perché poi in realtà se tu vai a vedere queste bambole, soprattutto i Ciccio Bello, questi qua erano tipo neonati, poco più che neonati, no? E che, sì, che parla mamma, e magari durante la notte, e da lì sono nati tanti film d'orrore, cioè nel senso, no. Sai cos'è il problema? Che quell'affare lì, se le batterie si scaricavano, mamma mamma. Comunque, tornando, l'ultimo che mi ricordo io, poi passo la parola a Davide, era il Crystal Ball. Crystal Ball, pubblicità anche quella su Topolino, quante schifezze di Crystal Ball, tutte appiccicate. Penso che sarà cancerogeno solo a guardarlo, Crystal Ball. Ah, non lo so, era un tubetto tipo quelli di, per spiegarlo a chi non lo sa, sì, più piccoli, tipo quelli dei colori, esatto, che sparava questa sostanza plastica strana, gommosa, che tu la mettevi su un tubicino e la facevi, la appiccicavi leggermente, soffiando facevi le bolle, che poi era una versione voluta delle bolle di sapone, fondamentalmente. Sì. Esatto, erano bolle toste, però aveva una puzza di materiale chimico. Sì, no, quella era. Io l'ho sempre detto che noi siamo dei sopravvissuti, quindi. Quella lì veramente, sì, penso che c'era petrolio, plutonio radiazioni nucleari e quant'altro, insomma. Perché no, effettivamente era una schifezza. Se poi ogni tanto ti capitava che ti veniva sulla bocca, mi ricordo che aveva veramente un sapore, mazza, un veleno era proprio. E, vabbè, io aspetta, leggo un secondo la chat, perché vabbè, Michela dice che voleva la casa da Barbie, quella con l'ascensore, vabbè, io penso che certo, era il desiderio di tutte le bambine. Poi Ruggio ci dice che praticamente gli vengono in mente i giochi, quelli educativi della Clementoni, vabbè, poi sono messi a parlare del grillo parlante, del fatto che la Jay si chiamava Ilota. Io pure sta cosa me la ricordo da sempre, certo, che diceva Ilota. Allora, in realtà era Iota, perché la lettera è quella, è greca in pratica, è la Iota, solo che la diceva male, sembrava Ilota. Lota, sì, è vero. Ilota, scrivi e perini contro. Ah, vedo, infatti lo stai spiegando in chat, quindi aveva fatto bene a dirlo, così almeno l'hai spiegato anche in trasmissione. E il reso famoso dal film di E.T., che era lo grillo parlante, e dentro c'era il chip della Texas, che è stato uno dei primi chip di sintesi vocale della storia, insomma. Di cui uscirà un episodio di Survival Hacking prima o poi, ecco, già registrato sulla sintesi vocale. Ma in realtà dovevamo fare una puntata anche d'archeologia informatica, poi sì, potevamo, ma sì, beh, sulla sintesi vocale si potrebbe fare una puntata intera sicuramente, anche di archeologia informatica, partendo dai primordi, quindi proprio dagli anni 30, ma se non ricordo male ne abbiamo, ma già forse parlato, l'abbiamo fatto, sì, ce l'abbiamo nel nostro libro nero forse ne abbiamo parlato fra di noi e poi non l'abbiamo ancora fatto, è vero, sì, ok, perché poi noi iniziamo una cosa e poi ne facciamo altre 30, è quello un po' il problema nostro, che alla fine secondo me prima o poi ci confonderemo. Ma non giocavate al dottore come tutti, Simone Pizzi? Sì, anche al dottore. No. Sì. Beh, insomma, quello più avanti. Pizzi giocava al dottore con le Barbie. Esatto. Anch'io ho giocato con il dottore con le Barbie, però dopo magari. Usavo altre Barbie per giocare al dottore con qualcun altro. Comunque era Roberto Tomaiuolo, che giustamente è atterrato, evidentemente. Ah, esatto. Chissà se magari si riesce a ricollegare, ma il Didò, sì, il Didò, vabbè, tutti i diciamo, dal Dash, dal Pongo, la plastilina, tutti i derivati, poi fondamentalmente la plastilina era bello perché c'era sti colori che te cecavano praticamente, cioè era un'operazione alla cornea. E invece, anche quelli plutonio, secondo me, sì, assolutamente. Invece il Dash era figo perché in realtà era praticamente creta, cioè era proprio, sì, sì, puzzava di terra. Beh, il Dash c'è ancora, il Pongo meno, perché credo che sia stato sostituito da quelli a base di acqua e non più, mentre il Pongo era a base di olio come pasta. Mentre il DAS esiste ancora oggi, ma viene utilizzato ancora oggi. Ma voi l'avete mai data una ciancicata a sta roba? Cioè, in chat dice il DAS è il detersivo, il coso si chiama DAS. DAS, sì, DAS, è vero, DAS, hai ragione, DAS. Hai ragione, sì, hai ragione. Salutiamo anche, cuciniere in chat che vedo. No, la domanda che vi stavo facendo, poi scusa, vai, poi continui te, Davide. Ma voi mi è mai capitato di ciancicarla sta roba? Cioè, io l'ho ciancicate, ve lo dico, ero già. Vuol dire ciancicare? Cioè, masticare. Ah, okay, scusa. Un pochino ogni tanto ci ho provato, ma faceva proprio cagare. Faceva schifo. No, no, però io ero curioso, io pure il Crystal Ball, che penso che una ciancicata io ho data pure a quella, cioè, nel senso, io ciancicavo tutto. Un assaggino l'ho fatto, lo facevo proprio schifo. Il pongo sì, quando era nuovo nella sua forma rettangolare, una morsata gliel'ho data. Perché un'altra cosa che uno non c'entra niente con i giochi, cioè che, chi è che non ha sniffato la coccoina, cioè proprio sta lì proprio, cioè se la provo in giro la sniffo. Sì, se sento l'odore in giro impazzisco, cioè pensa che neuroni che ci siamo bruciati con sta roba. La coccoina è stata più sniffata che utilizzata come colla, secondo me. Esiste ancora nella sua confezione identica negli anni 40, cioè se la compri adesso nella cosa alluminio ne è uguale identica, la rifanno ancora uguale. La cocoina. Sì. Comunque stavo dicendo il Dash, giusto per una stavolta il Dash. Chi di voi non si è preso il fustino di Dash, quello circolare cilindrico per metterci dentro che cosa? Il Lego. ovviamente. È vero, lo sai, c'hai ragione. Tutti. Il fustino del Dash cilindrico era sempre pieno di Lego in casa, dai. Certo. Che poi ricordiamo che fustino il Lego. Ricordiamo anche che fustino del Dash a Roma non è mai un buon complimento, cioè tipo, che ne so, quando incontravi una ragazza dicevo quella mi sembra un fustino del Dash cioè, nel senso, vabbè, non è mai una bella cosa, insomma. Quindi a Roma c'erano altre abitudini, non so come le chiamavamo, dei citofoni, non lo so. Cuciniere ci dice che lui non ci ha mai avuto Big Jim, sei un bambino triste, mi spiace. Oh, io non, stavo dicendo prima, non l'ho detto, ma io non ho mai giocato e mai avuto il Subbuteo. Anche tu sei un bambino triste. Ho giocare i miei fratelli, ma io non mi attirava per niente proprio. Vabbè. Io non l'ho mai avuto, ma ci giocavo. Non l'ho mai avuto, nel senso che ci giocavi con gli amici. Ecco. Sì, no, ma io non ci ho proprio neanche mai giocato. Non mi diceva niente. Vedevo loro che si ammazzavano, ma io non mi interessava. Vabbè, ragazzi, a me è stata così. È stata una mia esperienza non averlo visto. Non averci giocato, scusa. Visto, l'ho visto. Due o tre parole su altri tre giochini che abbiamo segnato, giusto perché sono segnati e quindi mi aprono degli sportellini di memoria. Allora, io guarda, a parte la questione del modellismo, quindi Micro Machine, tutte quelle cose lì, che poi in realtà pure la pista delle macchine, che in realtà adesso non mi ricordo neanche come si chiamava, ma ce ne avevo diverse. Polysteel, che insomma l'abbiamo un po' ignorate. E io mi ricordo che con una di quelle, ma già l'ho raccontato, quindi non direi raccontarlo, ho dato praticamente fuoco a casa una volta, perché ma cazzo, tu c'è l'incendiario, no, però in quel caso involontariamente gli hai dato tre fuochi no, ma in quel caso involontariamente, perché avevo questo trasformatore, voi ricordate che poi, cioè, come tutte le cose elettriche, venivano praticamente alimentate tramite alimentatori, trasformatori, e tra uno di questi trasformatori ce n'era uno a forma di marcia, che praticamente tu cambiavi la marcia e quello erogava maggiore potenza e le macchine andavano più veloci. Però chiaramente se tu lo lasciavi attaccato, evidentemente la resistenza dentro continuava a cazzo ne so, perché non è che so come funzionava, e alla fine si squagliava, cioè nel senso continuava a scaldarsi sempre più fino a che non si squagliava, e squagliandosi sotto le tende, diciamo, della cameretta, insomma, mia madre a un certo punto è entrata e c'erano le fiamme dell'inferno dentro la stanza, ha cominciato a tirare secchiate dappertutto e la cosa triste, sicuri questi giocattoli, eh? Sì, no, vabbè, ma questo poi non era neanche un giocattolo, questo era un trasformatore, io non so neanche quanto fosse regolare poi sta cosa, perché non credo fosse originale della pista, cioè secondo me era una cosa che infatti non me lo ricordo io il trasformatore. Infatti che penso che sia più una cosa che mio padre magari aveva visto lì al negozio dei giocattoli, magari qualcosa di artigianale, capito? Adesso da una foto che pubblicano c'è una specie di trasformatore, no, è un conta. Ma no, c'erano i manettini che acceleravano, effettivamente. I manettini acceleravano, quello sì, ma le marce sul trasformatore. Non so questo. C'era da considerare una cosa: io i giochi delle polystyle con le macchine e i trenini li avevo messi a parte, perché anche quella è tutta una categoria, sì, è vero, dei modellini del trenino e delle modellini delle macchinine, che c'erano varie versioni, perché ricordiamo c'erano quelli della Polysteel, che erano quelle lì classiche che costruivi, quelle che si chiamano slot car praticamente, no? Con le due linguette di rame sotto che poggiavano sulle piste di metallo, e quindi facendo contatto andava la macchinina col motorino elettrico. Poi c'erano le, all'epoca si chiamavano le bruciapista, che poi sono diventate Hot Wheels. Le Hot Wheels, solo che da noi all'epoca venivano tradotte, no? Adesso le chiamano tutti Hot Wheels, ma all'epoca, che erano sempre una pista di macchinine, ma lì non c'era una cosa elettrica, ma la macchinina veniva o lanciata o veniva sparata da un meccanismo a molla praticamente, e faceva la pista spesso con il giro della morte, finiva dentro da qualche parte, eccetera. Questo per quanto riguarda le macchinine. Poi c'erano le macchinine classiche, quindi tutti i miliardi di modellini, sì, dove la parte del leone la faceva la Biburago. La Biburago ce la ricordiamo tutti, anche qui terza di copertina di Topolino. La Biburago si chiama, chi è che sa perché si chiamava così la Biburago? Davide forse lo sa. Oh, perché sarà del paese Burago qua vicino a me. Esatto, Burago di Molgora. Si chiamava così perché l'azienda era di Burago di Molgora. Infatti, una cosa che non ho detto, la puntata l'ho chiamata il paese dei balocchi, perché adesso dico una cosa che è storicamente importante. Il 90% dei giochi che abbiamo giocato nella nostra infanzia erano made in Italy, cioè prodotti in Italia. E non solo perché eravamo in Italia, ma perché l'Italia negli anni, e questo lo sanno in pochi, l'Italia negli anni 70 e parte degli anni 80, poi l'ha persa completamente, era uno dei più grandi produttori di giocattoli del mondo. La maggior, tantissimi giocattoli che venivano venduti in tutta Europa e in parte che venivano esportati anche in America e in altre parti del mondo venivano prodotti in Italia. Per esempio il Goldrake, quello classico che entra nel disco, chi è che l'aveva accennato l'altra volta? Io. Tu, ecco, se tu lo ritrovassi, dietro al disco troveresti scritto Made in Italy. Era prodotto da una società italiana che si chiamava Fabian Plastica, che produceva quei giocattoli di Goldrake, produceva anche il Goldrake quello grande, quello alto, grosso, anche sì, quello c'era scritto Made in Italy. Era fatto in Italia, sì. Ed erano prodotti in Italia su licenza della Mattel, che aveva i diritti della serie Shogun Warriors, da cui poi c'erano, e come questi, miliardi di altri. L'Italia era famosissima nel mondo per la fabbricazione delle bambole. Le bambole della Furga erano esportate e famose in tutto il mondo. Il Cicciobello che hai citato prima, il Cicciobello è un'invenzione italiana. Sì, quello lo sapevo. Prodotto vicino al lago di Iseo. La Polysteel era di Chiari, provincia di Brescia, e produceva un sacco di giocattoli e macchine, le piste, le macchine, eccetera. La Lima era italiana, la Riva Rossi era italiana, la Atlantic che faceva i soldatini era italiana, e così via. Ne potrei andare avanti per decine di marchi che producevano giocattoli. Questo fino agli anni 70, primissimi anni 80. Nei primi anni 80 si è invece iniziato a spostare la produzione nei paesi tipo Hong Kong, Taiwan e poi vabbè, dove costava di meno, in pratica. Dove la manodopera costava di meno. Noi producevamo quando noi costavamo meno come manodopera, quando la lira aveva un potere acquisto basso e il costo nostro di produzione era basso rispetto a quello che poteva, e fornivamo una qualità molto elevata per il costo. E dopo negli anni questo non è stato più così, quindi anche noi abbiamo iniziato a importare, a far produrre fuori, a importare dall'estero, eccetera, e quindi i giocattoli poi sono diventati prima made in Hong Kong, poi made in Taiwan, adesso made in PRC, perché ormai è tutto fatto in Cina, che è diventata la fabbrica del mondo. C'è Ruggio che dice in chat, mi ricordo le macchinine made in Macao. Sì, potrebbe essere. Beh, ma comunque non solo produzione, ma anche proprio ideazione e produzione. Certo. Cioè, avevamo anche uno sviluppo, facevamo i giochi, li inventavamo, ecco, e creavamo. Una cosa che non sono in molti, per esempio, la Biburago di Molgora, la Burago di Molgora che faceva le macchinine, ha praticamente inventato la pressofusione a metallo. Sai quando si vedeva macchina realizzata in metallo pressofuso? Sì. Ve lo ricordate? Sì. Ecco, le tecniche di pressofusione del metallo per i modellini le ha praticamente inventate la Burago di Mulgora, e aveva una precisione di fabbricazione di dettaglio che superava tutte le fabbriche del mondo. Quando la Burago di Mulgora è fallita, è stata comprata dalla Maisto, che è un grossissimo produttore di giocattoli cinese a livello mondiale, che si è comprata praticamente tutti i marchi più famosi, compreso quello della Burago, e si è portata via le linee di produzione in Italia, cioè è venuto con gli aerei cargo, ha smontato le linee di produzione, se le è portate via, stampi, macchine di produzione, tutto quanto se li sono portati via dall'Italia. Questo per dirvi cosa eravamo e cosa è successo negli anni, insomma, in Italia, su questo semplice settore dei giocattoli, dove veramente eravamo leader mondiali. È una delle tante cose che abbiamo perso nel corso degli anni come fabbricazione italiana, ecco. Anche se rimangono la tristezza molto. Beh, giusto, adesso metto il violino triste. No, anche se in realtà poi esistono ancora delle eccellenze a livello artigianale, soprattutto artigianato è un'altra cosa, no, sì, certo, cioè per esempio ci sono delle fabbriche ancora che fanno quei giocattoli, quelli molto particolari in legno, certo. Comunque insomma, che alla fine esportano ancora in tutto il mondo, perché sono ancora rappresentative, insomma, di un certo tipo di discorso, però chiaramente, ecco, non è più un'industria, no? Cioè, da quel punto di vista, non c'è più un... Lì stavamo parlando proprio di industria a livello mondiale, a livello proprio consumer. Qua invece stai parlando di giocattoli di nicchia. Di eccellenze, cioè. Di eccellenze, sì, sì, chiaro. Sì, chiaro. Dai, prendiamole così. Va bene. Comunque io volevo dirlo, perché insomma alla fine già dall'altra volta volevo dire, io c'avevo il Gat Tiger, quello completo, c'era proprio Supercar Gat Tiger, che praticamente erano 5, mi pare, erano 5 se non mi sbaglio. Era della Ceppi Ratti, importato dalla Ceppi Ratti. Madonna, che c'è nome, però. Esatto, cioè una ceppa ratta. E comunque dobbiamo mettere qualche contributo musicale noi, no? Ah, cazzo, stasera siamo proprio scordati. Vabbè, dai, ce li teniamo, ne faccio sentire uno, gli altri ci li teniamo per la prossima volta, che tanto sono tutti i brani riciclabili. No, no, la melodia me la ricordavo, te devo dire la verità. Quello che era non me lo ricordavo, me l'ha detto adesso. Vai, Davide. No, no, questa qua, vabbè, adesso magari non c'entra moltissimo con i giocattoli, però era una cosa che, insomma, ricorda un po' i giochi. Era la trasmissione Ruota della Fortuna di Mike Bongiorno, un gioco televisivo, ma comunque non era proprio un giocattolo. Era una canzone un po' giocosa, che ricordo. Era diventato anche un gioco da tavolo, come tutte le trasmissioni televisive. Sì, c'era poi il gioco da tavolo. Perché chi perdeva riceveva il gioco in scatola. Esatto, il gioco c'era in scatola. C'era quello che diceva 100 milioni. Chi è quello? Il gioco in scatola della trasmissione più famoso in assoluto, che ha venduto di più in assoluto, vediamo chi lo sa. Il prezzo è servito? No. No. Simone? Paroliamo. Bravo, indovinate. Che culo. Ma che culo? Io ce l'avevo, paroliamo. Io impazzivo per quel tutti gioco. Tutti paroliamo, tutti. No, io ho avuto dei giochi strani nella vita, però. Paroliamo è stato quello che ha venduto più di tutti in assoluto come gioco tratto dalla trasmissione televisiva. Ed era questo con queste carte, ovviamente, che tu mettevi. Era, diciamo che è una variazione dello scarabeo, ecco, un altro gioco che non abbiamo citato. Che poi la cosa bella è che il paroliamo non era il nome della trasmissione, ma era proprio il gioco in sé, no? Quindi era quella rubrica, no? All'interno della trasmissione, quella di Fabrizio Frizzi. Come si chiamava la trasmissione? Non mi ricordo la trasmissione. Tandem? Tandem può essere, sì, tandem ce la paroliamo, sì, era Tandem, sì, sì, che sì, poi sì, parlava anche di videogiochi. Esatto, bravo, infatti una volta abbiamo anche parlato, in realtà io sto ancora cercando un gioco che fecero vedere su Tandem che non sono più riuscito a ritrovare, che tu giustamente hai detto sempre che in quell'era lì tutti i giochi che hanno fatto vedere erano tutti giochi per 64 prodotti, che poi tra l'altro l'hanno fatti pure in cassetta. Ma sì, prima che fecero vedere tutti quei giochi del Commodore 64, c'era un gioco che, vabbè, poi ne parliamo una volta in separata sede, perché lo devo ritrovare, sì, assolutamente. Va bene, dai, comunque. Io volevo solo carina la scelta di sto brano, devo dire la verità. Cioè, non c'entra con i giochi, però. A parte che non finisce mai, vabbè. Però. Esatto. Lasciala come sfondo. Volevo fare una carrellata veloce di alcune cose che, vabbè, non so, sono giocattoli, ma più che altro per la loro popolarità. La Graziella è una bicicletta, non è proprio un giocattolo, però all'epoca era non so come classificarlo, se era proprio un giocattolo. Vabbè, le biciclette erano anche un gioco, e io mi ricordo la Saltafoss come quella sì, che è stato uno delle immagini teaser che abbiamo usato prima di lanciare il programma, poi. Che è poi diventata la BMX praticamente, esatto, le biciclette BMX. La cerbottana, chi è che sa che cos'è? Come no? Costruivamo la cerbottana. E se non ce l'avevi, la facevi con le penne. I bussolotti. E noi quella, cioè, prendevi un tubo, un robot e la facevi. Beh, la cerbottana. I tubi quelli degli idraulici di plastica. La mazza fionda, ragazzi, la mazza fionda la facevi in tanti modi, cioè alla fine. Comunque tutte queste cose che servivano per tirare i pidosfori, non so se sapete. Mio nonno, ecco, mi costruiva una cosa particolare, faceva l'elica che volava. Il fucile. No, non so se qualcuno me la faceva, l'elica che volava. Praticamente prendeva un pezzo di latta e lo tagliava a forma di elica, con al centro faceva un taglio orizzontale. Poi un pezzo di ferro veniva arrotolato, infilando l'elica dentro il pezzo di ferro arrotolato e sotto con un bullone, tu spingevi in alto il bullone, l'elica girava e quando usciva dal pezzo di ferro arrotolato, volava via. Tu zio te l'ha costruito, io li compravo già fatti, erano quelli che gli tiravi la linguetta dentata e partiva. Sì, anch'io c'ho sto ricordo, sì, è vero. E mio nonno me ne costruiva questo. Vabbè, ma voi eravate fabbri. Mio nonno era fabbro. Esatto. Come hai detto la puntata scorsa, eravate sette generazioni di fabbri tranne te, insomma. Esatto. Vabbè, palle magiche. Ah, la palla pazza che strumpa la palla pazza, sì. Le palle magiche. E poi quello spirografo. Lo spirografo per me è stato una roba che era troppo libidinosito. Lo spirografo era talmente semplice, ma talmente, cioè, che è una specie di una serie di ingranaggi che si incastravano fra di loro con dei buchi dentro dove ci filavi una matita colorata, giravi questo ingranaggio dentro a quest'altro ingranaggio più grande e si componeva un'immagine fantastica a forma. Esiste ancora oggi anche questo, è stato uno dei giochi preferiti di mia figlia quando era piccola. Ecco, questi qua adesso ci sono, li ho visti, ci sono tutta una serie di strutture, di ingranaggi di tutte le dimensioni, ovali, esagonali, c'è di tutto adesso. Una volta c'era semplicemente l'ingranaggione grosso e due ingranaggetti piccoli dentro e pedalare. E nei giochi da tavolo, vabbè, a parte il gioco dell'oca che abbiamo giocato, certo, tutti, ci siamo dimenticati di citare il Trivial Pursuit, che era, sì, quello proprio. Ma io il Trivial però l'ho scoperto molto più tardi, anche, sì, perché cioè, quando ero ragazzino, che giocavi a Trivial che non sapevi un cazzo. Ma cioè, io ero abbastanza piccolo quando giocavo a Trivial, però boh, ma perché voi siete degli anni 80, cioè siete degli anni 70, e allora eravate piccoli, io ero già grandicello. Il Trivial era una roba, sì, da 18-19 anni. Sì, sì, bravo, diciamo. Bravo pure io, sì. E il Jenga? Serio, era anche il Jenga, qual è il Jenga? Il Jenga era quello che togli i pezzi di legno. Ah, sì, esatto. Sì, come no, sì, sì, sì, c'è questa piramide, questa, sì, torre, sì, di legno, togli il pezzo da sotto, lo devi mettere sopra le bestemmie, quando cade tutto. Proprio le bestemmie vere quando devi partire. Sì. Che altri giochi da tavolo vi ricordate che ci siamo dimenticati? Vabbè, giochi da tavolo, vabbè, io mi sono segnato un gioco mio che nessuno conosce al mondo, ma che siamo riusciti a vincere in 5 o 6 addirittura all'oratorio alla pesca di beneficenza, un gioco che si chiamava Yuppidoo, che era un gioco del film di Celentano basato, no, su tutta la, c'era la via Gluck, ma dai, allucinante, che ci abbiamo giocato a dismisura, ne avevamo vinti 3 o 4, cioè non so, si vede che non lo voleva nessuno quello. e l'hanno regalato per fare le pesche di beneficenza all'oratorio, e ci siamo ritrovati 5-6 che era questo gioco, per cui andavamo a casa di un amico e c'era Yuppidoo, andavamo a casa di un altro e c'era Yuppidoo, andavamo a casa mia e c'era Yuppidoo, e giocavamo sempre a questo gioco qua, e per noi di quel quartiere era un gioco famoso, era un gioco normale. Quando uscivi dal quartiere, mi dici, ma sto gioco dove cacchio l'avete mai visto? Non esiste. Io infatti non l'ho mai sentito nominare. Manco io. Che noi, avendolo avuto in 5-6, per noi era normalità, come certi nomi di persona. Solo adesso mi rendo conto, in questi tempi. Io ho una mia vicina di casa che si chiamava Dianora. Ma no, poveraccia. Dianora, non Eleonora, Dianora. Sì, sì, abbiamo capito. E per me era un nome comunissimo, perché la conosco da quando sono nato, era la mia vicina di casa quando avevo un anno, fino a quando eravamo 26 anni, è stata la mia vicina di casa. Era un nome comunissimo, e quando le dicevo in giro tutti, Dianora, ma che cazzo di nome è? Che nome è? E per me era normalissimissimo. Proprio. Beh, vabbè, certo. Andrew, che salutiamo in chat, ci dice: mi sa che in Sardegna i giochi che arrivavano negli anni 90, vabbè, insomma, erano quelli che dall'altra parte c'erano negli anni 70 e 80. Vabbè, ma guarda che non è in Sardegna, cioè io alla fine, come abbiamo detto tante volte, la distanza che c'è oggi tra Roma e Milano negli anni 70 era 4 volte tanto, insomma, e non solo culturalmente, proprio anche a livello proprio di, cioè, non era così usuale, no, il trasportare anche se stessi da una parte all'altra in generale. E per quanto riguarda i giochi da tavolo, a me viene in mente Cluedo, però vabbè, non so se quando Cluedo, sì. Me lo ricordo bello anche Cluedo, sì. Io non so se Cluedo è quello che io mi ricordo, che c'erano delle facce, che delle palettine con delle facce che man mano che indovina si chi. Quella è indovina chi, indovina chi, sì. Le palettine, poi vabbè, c'erano pure quelli che te facevi da solo, tipo nomi, com'è, cose, città, animali. Ah beh, vabbè, ma poi allora c'era anche il Forza 4, no, cosa, nomi, città, era quello che prendevi il foglio di carta, vabbè, facevi le colonne, scrivevi, sì, cose, bravo, nome, sì, città, targhe, sì, di macchina, pietanze, che ne so, e poi dopo si trova una lettera e bisognava scrivere ognuno le sue cose. La battaglia navale elettronica, cioè, con i rumori. E mi ricordo la prima battaglia navale via rete, Novell in ufficio. Il primo gioco avanzato, con due colleghi o tre che giocavano in rete. Era magia. Io questo, però chiudiamolo, perché questo è veramente un altro capitolo. Ma se devo pensare a un videogioco collegato all'ufficio, mi viene sempre in mente Gorilla.buzz. Vabbè, sì, è quello del Messedos. No, però non parliamo di videogiochi, sennò lì si apre l'universo. No, Davide, tu che l'hai già raccontato, racconta il dolce forno dell'Arbert. Allora, in realtà il dolce forno, io più che raccontato, io non l'ho, più che avuto l'ho avuto, ce l'aveva qualche mio amico, no? Però era cacchio, il dolce forno bellissimo. Spero qualche amica, perché l'amico che c'era il dolce forno roba. Che era un gioco che era per le femmine, ma c'erano tantissimi maschi che lo desideravano, non so perché, lo so io perché comunque questo dolce forno è stato sempre un oggetto curioso, molto simpatico, poi c'era, chiaramente c'era, ci si facevano anche delle cose, però io l'ho più visto dal punto di vista elettrico, no? Volevo capire che cacchio era, come era fatto, e aver scoperto che era semplicemente una lampadina, sì, sì, una è vero, da 50 watt, non lo so, infilata dentro, che scaldava e faceva da forno, sono rimasto troppo male. Ma in realtà io non so, è proprio per quel tipo di potenza erogata, non riesco a capire, perché in realtà c'erano alcune cose che magari dopo 3 ore, 4 ore, non dico le cuoceva, però comunque qualcosa faceva, cioè non è che... Beh, una lampadina da 100 watt o da 60 watt, caldo ne fa, sì, eh. Caldo ne fa, sì, sì, poi... Tanto, venivano sempre delle porcherie nel dolce forno. Vabbè, sì. E poi comunque col senno di poi, credo che oggi non so se esista ancora il dolce forno, ma sarebbe un po' illegale, okay, perché i bambini si scottano, si ammazzano e arrivano subito. Vabbè, ma non ti scottavi col dolce forno, dai, e la lampadina da 100 watt, se arrivavi a toccarla scottava tanto, altro che sì, ti bruciavi il dito. E poi comunque l'obiettivo era che dovesse funzionare sto forno, perché se non faceva un tubo non lo voleva nessuno, quello faceva, boh, non so, mia moglie ce l'aveva e l'aveva raccontato in un'altra trasmissione, ma adesso dorme, quindi non ce lo potrà mai raccontare. Invece un gioco che io mi ricordo che giocavo tantissimo e volevo capire come funzionasse, l'ho smontato per capirlo, è stato l'Allegro Chirurgo. Yes. L'Allegro Chirurgo era un gioco che fastidio. Era quella specie di scatola di cartone alla fine con l'omino disegnato con i buchi, dove dentro ci mettevi le ossa e tu con la pinzetta dovevi tirare fuori l'osso senza far suonare il naso dell'omino. Veramente disgustoso. Era un gioco disgustoso, guarda, proprio fastidioso. E il meccanismo era semplicissimo alla fine, perché era praticamente una pila da 4,5 volt. Ve le ricordate le pile da 4,5 volt? Quelle piatte con le due, che praticamente era collegato con un filo, era collegato alla tua pinzetta di metallo, e l'altro filo era collegato a tutta una lamina di alluminio, metallo, sì, che stava sotto sagomata, per sagomata con le forme, quindi c'erano. Se tu toccavi i bordi suonava. C'erano diversi giochi che usavano sta cosa della lastra d'alluminio per fare. Se ci pensate, questo è l'evoluzione di un altro gioco famoso tanto quanto quello, che era quella specie di barra tutta piegata, dove tu con una specie di maniglia con un anello ci dovevi... Quella l'ho vista nei film, non ce l'ho mai avuta io. Quella lì dovevi cercare di fare tutto il percorso senza toccare la barra tutta sagomata, piegata, e arrivare alla fine. Era lo stesso concetto e di precisione, dovevi seguire tutta la linea. Lì l'hanno applicata invece a prelevare delle ossa dentro l'Allegro Chirurgo, e che se toccavi faceva lo stesso effetto, diciamo il principio elettrico è lo stesso, però applicato ingegnosamente, credo sempre da italiani, secondo me è un prodotto italiano. Non lo so, mi è venuto in mente, mi si è aperto un cassettino pensando all'Allegro Chirurgo, mi è venuto in mente come si chiamava quello c'era la botte dei pirati con dentro il piratino dentro e ci mettevi i coltelli dentro, se quello sbagliato saltava per aria. Allora saranno stati i pirati dei Caraibi o roba del genere, dai. me lo ricordo, comunque te lo ricordi tu questo? Sì, come no, me lo ricordo, sì, non ce l'avevo ma me lo ricordo, perché poi tanti giocattoli non li ho mai avuti, li ho solo visti e neanche li avevano degli amici, proprio li ho visti nei negozi, perché poi ricordiamoci, poi lo ricorderemo in un altro episodio, forse che verrà più avanti, di come facevamo in quegli anni a fare le cose, era comprare giocattoli, si andava in un negozio di giocattoli. Io ho passato giorni con la faccia spiaccicata sulla vetrina del negozio di giocattoli a guardare i giocattoli in vetrina, e non si poteva entrare a meno che non dovevi comprare qualcosa, li potevi solo vedere le vetrine. Queste vetrine erano piene di giocattoli in tutti gli angoli, tra l'altro si vedeva anche l'interno del negozio, dove vedevi tutto. E tu andavi lì a curiosare. Erano i luoghi del desiderio, questi, con la bava alla bocca attaccata alle vetrine. guarda quello lì, guarda quello, chissà come funziona quello lì, chissà come fa, come fa, vai. E poi vabbè, vedevi ovviamente i giocattoli che vedevi su Topolino, li vedevi lì dal vero, bastava allungare la mano. In tutti i negozi dei giocattoli seri c'era il plastico dei trenini col trenino che andava, sì, e stavi lì i giorni, sì, a guardarlo. Ah, io impazzivo proprio. Sì. Ma io ancora adesso, devo dire la verità. Certo, ma il trenino, guarda che c'è un fascino mondiale. Io quando siamo andati nel negozio di Vavassori a Bergamo, che aveva il trenino Model Berg. A Brescia, siccome è un negozio oserei dire antico, nel senso che dentro non solo c'ha tutte le robe nuove, ma c'è anche dentro tutta roba di anni anche del passato. È un negozio tra l'altro pieno zeppo di roba, in ogni angolo dove vai c'è qualcosa. E lì era veramente pieno di roba, e tu le guardi, e a volte quando guardi una di quelle belle locomotivine carine eccetera, guardi il prezzino sotto, e sì, che costa 300 euro, sì, 300 sì, euro. No, però ricordiamolo, dato che ci siamo, facciamo pubblicità a Model Berg a Brescia, giusto? A Bergamo. Berg sta per Bergamo. Disgraziato. Dici Brescia, ma no, ma lo so, mo lo so però in realtà faccio sempre fatica. Brescia, Bergamo è un casino per me, lo so, È una roba un po' atavica, insomma. Però è così, per esempio mi ricordo che pre-Covid a Porte di Roma, al centro commerciale di Porte di Roma, avevano installato praticamente questo plastico con la pista delle macchine, che ci potevi anche giocare. Però a parte essere grandissima, e c'era praticamente tutto il circuito con gli spalti, le luci, le cose. A me proprio in generale i plastici mi hanno sempre affascinato, certo. Proprio sempre. Tommaiuolo ci ricorda che il gioco dei pirati si chiamava Allegro Pirata. Allegro Pirata. Ma tutti Allegri, sì. Il chirurgo era Allegro, il pirata era Allegro. Allora, io vorrei concludere la mia carrellata veloce di giochi che possiamo dire quasi, anzi in parte direi elettronici. Vabbè, il grillo parlante ormai l'abbiamo già recitato, sì, l'abbiamo già detto prima, tutte le salse, e lo taglio subito. Però walkie talkie, due cassabuboli che non funzionavano mai. Avevo fatto i walkie talkie di Topolino io, erano in kit quelli di costruzione, pezzi dentro Topolino, sì, funzionavano, sì, meglio i due bicchierini con il filo praticamente in generale. Non ma mai, lo sai che a me il walkie talkie ancora sto in fissa, infatti ogni tanto vado su Amazon e vado a cercare qualche walkie talkie. Adesso ce ne sono a 4 soldi che vanno, però che ma vanno, nei nostri, sì, tempi non andavano a Madoff, c'erano 3 metri facevano, vabbè ci sta che ad aria 500 metri, poi arrivavi e non riuscivi a parlare dietro l'angolo, vabbè. Poi proiettore film video 8 con il quale ci vedevamo i film di Zorro, Staglio e Olio. Allora, intanto il proiettore non io è video. Quando arrivava c'era. Fermi, mi dovete da sentire quando io parlo. È una cosa incredibile. Io ne... Allora, intanto, se dici proiettore, non puoi dire. Come hai detto tu? Proiettore video 8. Non puoi dire video 8, ma super 8. Tu hai ragione, cazzo, okay. Super 8. Correggo anche il documento. È importante questa cosa, perché comunque una cosa è il video, è una cosa la pellicola. Certo, hai ragione, è super 8. 8 mm di 8 mm bravo, della pellicola. E dove ci ho visto Zorro in bianco e nero, senza audio. Sì, io c'avevo il film di Robin Hood, No, film in pellicola, ci volevano 7 pellicole, e erano delle bobinettine mignon nel proiettore. Sì, no, diciamo che esistevano in pellicola, se tu andavi in certi negozi, vendevano le versioni smart, diciamo, di alcuni film che prendevano 4-5 scene, tanto erano mudi, qui non c'era manco la banda sonora. Hanno fatto una riduzione. Sì, faceva una riduzione di un film che... No, vabbè, c'erano anche le bobine più grandi, però insomma, sì, no, in generale... Io mi ricordo, scusami Simone, forse tu che te ne intendi di questo, mi ricordo che ce n'era uno che aveva tipo delle cartucce, delle... dove dentro c'era il Super 8 praticamente. Beh, erano delle specie di cassette che le infilavi dentro. Sì, beh, era un po' quello che dicevo io, no? Che c'erano quella specie di giochi o giocattoli o comunque sistemi di proiezione che di solito erano monoculari, dove tu praticamente mettevi dentro questa specie di cartuccia, che poi in realtà la cartuccia non era nient'altro che le due bobine che si muovevano. Era come se vi ricordate lo Stereo 8, era una bobina a nastro infinito. che continuavano a girare sempre. E dentro c'era il video, il Super 8. Secondo me invece c'era anche un prodotto che era una sorta di mini televisorino, una specie di televisorino. La Mupi, mi è venuta in mente la Mupi. Ce l'avevo pure io. Che ci infili dentro quella cassettina, che arriva una quelle foto anche. Cassettine con i cartoni animati di Goldrake. Che era sempre in pellicola. Io c'avevo Speedy Gonzales. Sì. Cioè. Esatto, sì, cartoni animati. C'erano Mupi, Mupi, mi è venuto in mente il Mupi. E si vedevano sempre di proiezione, comunque erano un retro, quella era proprio retroproiezione, dietro c'era un mini proiettore. L'ho usato così tanto quello da piccolo che per vedere Goldrick col Mupi, che dovevi girare tu la manovella, che mi era venuta la fiacca sul dito. Proprio quello la pensavo io, era venuta. Pensavo no, la manovella no, dai. Sì, sì, c'era pure la manovella, sì, sì, è vero, è vero. C'erano pure a manovella, ma io ho detto c'erano anche a forma di cinepresa. Che sì, tu mettevi il coso dentro praticamente, guardi. Poi tu con la mano giravi la manovella e quello andava, mica era meccanico, se beati, cioè era meccanico ma non era elettrico, questo volevo dire. Non c'era neanche la lampadina, dovevi guardare il sole, bravo, esatto, no, se no c'era anche quella forma di televisore, che invece dentro c'era un proiettore che faceva la retroproiezione praticamente sullo schermo, insomma, e mi ricordo pure questo, che poi tra l'altro era una di quelle cose che tu te costruivi anche da solo volendo, cioè nel senso, sì, perché bastava un foglio di carta traslucido, sì, facevi uno scatolone, lo bucavi, facevi il rettangolo, dentro ci mettevi un sistema di proiezione che potevano essere, ma poi io mi ricordo che per esempio quelli che poi sono diventate le lavagne luminose, no? Quindi quelle che tu ci metti il foglio praticamente trasparente, scrivi e proiettava sui muri, in realtà c'era un corrispondente simile per ragazzini che veniva chiamato il proiettore, dove però non è che era un proiettore dove ci mettevi la pellicola, dove mettevi i disegni, l'allegro proiettore, sì. E tu mettevi praticamente il disegno sotto e lui te lo proiettava sul muro praticamente, cioè quella era un po' una cosa, me lo ricordo anch'io quello, c'era uno della pantera rosa, mi ricordo. Giusto, la pantera rosa, cacchio. Comunque io concludo con questo cose. Che vi dico, che queste sono quelle cose che quando se apre la porta è la fine, la fine. Io mi ricordo quelle macchinine a batteria che non erano radiocomandate, andavano e avevano sotto un meccanismo fatto con due piccole rotelline che poi giravano su se stesse, che quando andavano contro un muro tornavano indietro e continuavano a viaggiare, oppure se le mettevi su un tavolo arrivavano in fondo e non cadevano e continuavano a stare sul tavolo. Queste macchine mi facevano impazzire, è vero, sì. Io le guardavo, dicevo come fa a non cadere, io mi magia, ricordo, magia. Aspetta, me ne ricordo una che forse questa sarebbe piaciuta a Pizzi se non se la ricorda. Erano queste macchine che andavano contro il muro, ma ce n'era una che ce l'avevo, che tu prendevi vi ricordate le pistole che sparavano, avevano quella specie di cose gialle che tu le mettevi, sì, che un no, po' di ecco, tu prendevi quei caricatori lì gialli con la polvere da sparo, lo mettevi sulla punta della macchinina, questa macchinina aveva poi una carica molla tipo trappola, che tu praticamente quando andava a sbattere contro il muro scattava e faceva PAM e saltava via la macchina. Me la ricordo, beh, però. sì a voglia, c'era pure la pubblicità, mi ricordo, sì a voglia, mi hai fatto ricordare questi mini caricatori. Io mi ricordo una cosa, ma non so se è veramente una cosa, una proiezione della mia mente. Ma c'erano delle macchinine che, dato che non c'avevano il telecomando, c'erano un sistema per invertire la marcia o per girare che era a rumore. E tu c'avevi questa specie di telecomandino che faceva stick e quello praticamente cambiava. La macchina era radiocomandata col rumore, nel senso che tu avevi in mano una cosa che cliccava e faceva. Bravo, sclack, forte. La macchinina aveva al posto dell'antenna aveva un microfono ricevitore che quando sentiva il rumore praticamente invertiva la marcia tornava indietro. E poi se battevi le mani o le padelle era la stessa cosa. Bastava un rumore forte. Voi sappiate che allora vedi che non me lo so, cioè non è una proiezione. No, ce l'avevo e questo è ovviamente un retaggio di altri, cioè veniva utilizzato i primi telecomandi delle TV. Non erano ultrasuoni attivi, avevano dei pulsanti che meccanicamente facevano un suono meccanicamente, e dall'altra parte c'era un microfono che intercettava questi 3, 4, 5 tipi di suoni, aveva 3 tasti in telecomando, i primissimi, ed era ultrasuoni, ma ultrasuoni generati meccanicamente, non elettricamente, e facevano stock, E poi, se vi ricordate, il gioco proprio Rischia Tutto, credo, in scatola, aveva queste specie di conchigliette di metallo che, se tu le schiacciavi, facevano stack, stack, stack, che serviva per prenotarsi, per attirare l'attenzione, che sono io che so la risposta, ta, ta, ta, ta, ta, clicchi questo coso. E poi l'hanno sfruttato anche per fare queste macchine radiocomandate, suono comandate, esatto. Allora, io adesso vi mollo qua il mio ultimo asso, con anche link in chat del mio episodio, di cui parlo di un giocattolo che è stato per me il giocattolo della mia vita. Radio Balzo. Esatto, che si chiamano, pensate che quando ho fatto l'episodio non mi ricordavo come si chiamava sto coso. Adesso l'ho trovato, ce l'ho su eBay, ma costa purtroppo una cifra, una follia, non sto aspettando di trovare qualcosa di meglio. Ho trovato proprio quello che ho usato per fare quell'episodio, quella cosa che ho raccontato nell'episodio, e si chiamano Denshi Block, sono delle robe giapponesi, venivano fatte in Giappone, sono state commercializzate in tutto il mondo negli anni 60 e esistono ancora in versione più moderna. Sono tutti delle specie di cubetti con dei contatti elettrici, e ogni cubetto ha dentro disegnato sopra, non so, una resistenza, un condensatore, un transistor, diodo, ci sono tutti i componenti elettronici, e poi tu li ficcavi uno dentro l'altro affiancati, si toccavano elettricamente, seguivi le istruzioni, costruivi le cose seguendo, costruivi lo schema elettrico, in pratica proprio la resistenza, poi il transistor, il condensatore, lo mettevi tutti in fila e ottenevi dei risultati. C'erano, non so, 40-50 esperimenti, tra cui uno era un trasmettitore radio. E questo coso l'abbiamo usato per trasmettere una trasmissione taroccata, nella quale c'era un telegiornale, radiogiornale, perché la mamma di un mio amico ascoltava sempre la radio. Noi abbiamo ficcato sto coso in casa perché aveva una portata di 3 metri, con attaccato un Walkman che diceva che aveva questa registrazione fasulla di musica, poi iniziava questo finto telegiornale che era il telegiornale del giorno prima. E poi ci abbiamo ficcato dentro una notizia fasulla che dichiarava che oggi c'era lo sciopero di tutti i trasporti, gli autotrasportatori, e quindi i mezzi non funzionavano e non si poteva andare a scuola. E abbiamo simulato uno sciopero in questo modo, e la mamma non ha fatto andare a scuola il figlio, e abbiamo bigiato, in poche parole, simulando questa trasmissione radio che ho fatto con questo cuboide qua, che adesso purtroppo costa 350 euro, vogliono, mi sembra una cifra elevata. Beh sì, non l'ho mai visto e non ho mai conosciuto nessuno che ce l'avesse. Manco io. Primo che conosco che... Io l'ho visto in pubblicità anche questo, ma non l'ho mai visto dal vivo. Con quello di elettronica non sapevo assolutamente niente. Questo mi ha fatto conoscere l'elettronica. Ecco, adesso posterò un'immagine dell'oggetto, proprio quello che era. E tra l'altro questa è la versione che c'ha anche forse il trasmettitore radio in questo momento, composto nel suo cubettame. Se lo guardate, lo schema che c'è è quello di una radio. Era un antesignano di Minecraft. Esattamente, solo che i cubetti adesso ne fanno di versioni molto più moderne. Certo, ovviamente. Adesso fanno questi. Sempre gli stessi giapponesi, che comunque è un prodotto che era stato popolarissimo sicuramente in Giappone, in Italia forse molto meno. Io sono riuscito comunque a... No, io non l'avevo proprio mai sentito, ma neanche mai visto, ma non l'ho mai avuto e non conoscevo nessuno. Poi elettronici ce ne sono stati tanti, no? Molti con le molle, con tanti sistemi diversi per infilare i componenti elettronici. Questo cubetti secondo me era il più pratico, perché veramente era elettronica vera alla fine. Poi era elettronica vera, esatto. E come il meccano era meccanica vera, perché io ho imparato la meccanica con meccano, in pratica. Se vogliamo fare una... Roberto dice che ce l'ha. Un'eguaglianza era l'Arduino degli anni 60-70, perché in pratica oggi l'Arduino in realtà sono cubetti un po' più potenti, un po' più intelligenti, ma alla fine sono sempre cubetti che metti assieme per realizzare poi un oggetto che si collega al wifi, che fa delle cose magiche. E il concetto è quello, magari non devi conoscere per forza come funziona l'elettronica, se attacchi 3 fili lì, 2 fili là e carichi questo programma dentro all'Arduino, lui fa quello che hai trovato su internet. Io ce l'avevo su un manualettino di carta con 20 pagine, con i disegnetti come dovevi mettere i tuoi cubetti, però non sapevi cosa significasse quella resistenza, cosa faceva quel transistor, non avevi idea, però era bello sapere di aver fatto qualcosa di elettronico, che cosa faceva la sirena, che suonava l'amplificatore, la radio, e tu andavi in giro a far vedere ho costruito una radio in realtà hai bisogno dei cubetti guardando un no, però ragazzi, cioè, nel senso, a parte che magari ti stimolava anche ad apprendere, no? Quindi comunque alla fine tu dicevi ho costruito una radio, però è perché l'hai fatto col coso, sì, però l'hai fatto tu, cioè nel senso, cioè, no, cioè, poi, comunque è stato l'elemento propulsivo che poi mi ha dato questa passione, diventare quello che sei adesso, sì. E quindi bene, io direi che se non so se Carlo, io penso che in linea massima. Beh, ce ne sarebbe ancora da raccontare quintali, perché sì, guarda, basta leggere Twitter, lo slime con i vermi, i frisbee, il Going, lo Shanghai, Playmobil, sì, il traforo, il trapano a mano, le macchinine raccomandate, non abbiamo parlato. La maglietta magica. Poi c'era l'elenco dei marchi, che già solo dicendo i marchi vi venivano in mente cose. Cioè, sì, se sì, io dico Atlantic, mi viene in mente una cosa. Ah, sì, ma quando dici Lima. Dici treni, no? Hai capito? Non è che dici devi dire trenini, anche Polistil dici la pista, Bontempi dici gli organi. Sì, sì. Esatto. La pianola dici pure. Esatto, sì. Pianola, vabbè, un po' meno il flauto per dire le macchine radiocomandate, Reggiana Elettronica. Ma vogliamo parlare della bandieria magica allora? Quella che tu non sapevi cosa fosse. Manco io, a dir vero. Ci facevi i calzini, i vestiti per le Barbie, ci facevi. Facevi tu, non l'ho capito. No, era un gioco femminile. Okay. Però ce l'avevano le mie cugine, per esempio, ma a me attirava perché era meccanicamente interessante. Che, tipo la cugina mia che c'aveva la Barbie. Dice. Sì, esatto. Era un gioco che praticamente costruiva... Praticamente faceva l'uncinetto, ma lo faceva in maniera automatica, quindi era tutta una serie di ingranaggi, puleggi, eccetera, dove tu mettevi il filo di lana, poi girando questa ruota faceva la maglia praticamente. Produceva un cilindro. Quindi diciamo, in buona sostanza il cilindro di maglia ci facevi qualunque cosa, il vestitino della Barbie. Era affascinante guardare tutti questi meccanismi che si muovevano. Comunque in buona sostanza era la stampante 3D degli anni 70. Sì, concettualmente sì, il fascino era quello dell'epoca. Beh, io ve l'avevo raccontato, no? Forse l'ho raccontato in un runtime di notte, che io da piccolo facevo l'uncinetto. Anch'io, sì, no, l'abbiamo detto l'altra volta. Sì, sì. Maglia, io mi prendeva troppo bene. Sì, sì, anch'io. E mia madre mi ha insegnato. Anche mia madre mi ha insegnato la maglia, l'uncinetto, e facevo un sacco di cagate. La imitavo praticamente, però me la cavavo. Io mi divertivo a coi ferri. Imitavo mio papà che faceva il fabbro e il nonno che faceva il fabbro, quindi certo, lavori più pesanti. Ferri, esatto. Vieni bambino, vieni a giocare a fare il fabbro. Sì, che tanto non è pericoloso questa sega da... Ma guarda, se vi dico le cose che ho fatto da piccolo tra l'officina di mio padre, non so come sono sopravvissuto, perché io e mio fratello, quando c'era mio padre, giocavamo in officina con la mola che girava. Ma robe che tipo che ci lanciavamo con i carrelli per il trasporto del ferro, e io o ci appendavamo all'argano che tirava su le travi di metallo. Dai, prova a infilare questo ferro dentro la mola che sta girando forte, vediamo se fa le scintille. Sì, ma sul serio, però. Lo so, immagino, ma anch'io ho fatto di quelle cose che se mi immagino che le facessi, sì, no, con infatti, i capelli verdi. Vabbè, sì. Esatto. Diciamo in contesti diversi, magari, però sì, penso tutti abbiamo fatto cose stupide o pericolose, anche non rendendotene conto. Bene ragazzi, io direi che come dicevo, volevo dire che insomma, in realtà, ecco, questa è una di quelle puntate che poi magari vi lasciamo a voi la possibilità, insomma, di provare a esplorare ulteriormente. Magari scriveteci magari per le altre cose che vi vengono in mente, ci possiamo sempre tornare sopra. Poi proveremo a riindirizzare anche questioni relative al gioco, ai giocattoli o alle cose. Insomma, come avete visto, in linea massima noi prendiamo dei temi, li segmentiamo e li esploriamo come è giusto che sia, insomma, anche perché non è solo una questione di amarcord e di ricordo, che sicuramente è, ma è anche l'esplorazione di un mondo che, come abbiamo detto, è cambiato nel bene e nel male. Non siamo qui a sindacare su questo e non ci interessa. Quello che ci interessa è raccontare quanto si è cambiato e a volte anche stupirci del fatto, in quelle pochissime occasioni in cui ci rendiamo conto che sì, è cambiato tanto, ma poi non completamente, perché ci sono cose che ancora sono sopravvissute, insomma, anche se sicuramente in modo diverso, no? Perché magari fatte diversamente, però insomma molte cose sono sopravvissute. E sarà bella fare anche una puntata sui gelati, sulle merendine, su quelle lì veramente siamo sopravvissuti per davvero, cioè, perché penso sì, direi proprio di sì, direi. Insomma, okay, il plutonio che abbiamo mangiato e niente, 123. Quindi suggerendo a tutti di andare a cercare UFO Solar su YouTube, su eBay, di UFO Solar. Sì, che si rompevano subito, poi sì, duravano subito. Un volo, riuscire a farli volare era un'impresa quella. Però il going, che poi spieghiamolo, stufo vol, solar, era un sacco dell'immondizia, era praticamente un sacco nero molto leggero, molto che leggero. Si scaldava col sole perché infatti si faceva d'estate sta cosa, esatto. Tu lo correvi, lo riempivi d'aria, poi l'aria. Si scaldava perché chiaramente dentro ha costo tutto nero e fare l'effetto del pallone aerostatico e praticamente si diventava una specie di dirigibile, solo che erano due coglioni per farlo volare, però era divertente comunque, cioè, nel senso, la cosa divertente era provare a farlo, insomma, no? E poi perché era talmente leggero che si rompeva facilmente. Però io sempre nell'estate io mi ricorderò sempre sto missile che ha comprato mio padre, che tu praticamente lo caricavi acqua e con la pressione dell'acqua pim schizzava. E quello andava su giochi ad acqua, se ci pensi, da piccoli erano tantissimi. Mi è venuto in mente tutta quella serie dei giochi ad acqua che tu prendevi, erano delle specie di taniche di plastica con dentro i cerchietti di plastica, sì, col bottone che schiacciava, esatto, faceva, tu riempivi di acqua, poi prendendo il bottone lanciavi i cerchietti, dovevi prendere i gancetti, che c'erano gancetti dove appenderli o cose di questo genere. Ma questo era abbastanza innocuo, se tu ci pensi, il missile che schizzava su in aria, andava, che ne so, a 20 metri d'altezza, ti cascava in testa, non te faceva bene. No, scendeva col paracadute. Aveva paracadute. No, non mi ricordo sta cosa del paracadute. Sì, c'era il paracadute. Okay. Bianco con i figlini. Sì. Poi del paracadute c'era il classico omino, che tu avevi il paracadute di plastica che lo accartocciavi, sì. Poi l'omino lo mettevi nella fionda, lo lanciavi in aria, poi si apriva il paracadute e lui è vero, è vero. E quella era l'epoca dell'UFO Solar e tutti annessi e connessi. Sì. Comunque. E ve li ricordate di quegli aerei di plastica con le ali che giravano? Sì, ma pure quelli, gli ultraleggeri, vi ricordate? Esatto. Era di plastica soffiata praticamente. Sì. Come e avevano le ali che giravano e facevano da elica e volava in aria, ecco, non so come. C'è un'immagine di un UFO Solar circa, era un po' più corto, per quanto me lo ricordo io. Era lungo 3 metri. Io me lo ricordo lunghissimo, voglia, sì. Comunque il tubo sonar, chi è che se lo ricorda? No, quello no. Il no. Tubo sonar, no. Nessuno se lo ricorda. Ah, vi ho beccati, eh. E allora cercatevelo, il tubo sonar. Era un gioco, praticamente qualcuno, non so, un fabbro, non so, ha preso un tubo, ha scoperto che agitandolo a cerchio tipo lazzo faceva un suono strano. E niente, è diventato un giocattolo. Io l'ho comprato. Il tubo sonar. Vabbè, come la molla che scendeva le scale. Il tubo sonar comunque è stato un successone, secondo me. Secondo me se si cerca si trova, dai. No, io non me lo ricordo. No, manco io. Vabbè, comunque, salutando Domenico, che è appena entrato nella chat, quindi benvenuto anche a Domenico. E insomma, andate a cercare. L'UFO Solar, cos'è, il tubo celeste di plastica? Sì, l'UFO Solar ce l'ho trovato, ragazzi. Della Polistil era, ragazzi. Bella, bella. Era della Polistil, anzi, qualcuno l'ha già pubblicato prima di me. E vabbè, quindi questi erano un po', appunto, ho detto i giochi. Insomma, cercateveli alcuni perché sono veramente particolari. Ce ne sarebbero veramente altri. Decine e decine, yeah. Che magari abbiamo fatto 500 lire costava, 500 lire il tubo sonar. Questa è una puntata che darà là un sacco di altre puntate. Diciamo che la prossima sarà sul Lego, dai, la prossima. Dai, sì. Mentre che invece la prossima settimana, dato che torna Roberto e tocca a lui, parleremo di Chernobyl. Non è che ci soffermeremo esclusivamente sul discorso del nucleare in quanto tale, ma diciamo raccontare quel periodo, quella situazione, quell'evento, come l'abbiamo vissuto e anche come vivevamo un po' questa questione del nucleare in generale, anche della guerra fredda, di come vedevamo l'Unione Sovietica, che immagine ci avevamo di quell'epoca, insomma, perché a volte sì, è divertente, insomma, raccontare cose più ludiche, ma a volte è anche divertente raccontare una società che era particolare e che noi facciamo sempre. Diciamo, ce ne siamo resi conto forse poco, ma è stata, diciamo, gli anni in cui siamo andati vicino, insomma, ad una catastrofe globale, insomma, quindi e questa cosa un po' la sentivamo, un po' non la sentivamo, un po' la capivamo, un po' non la capivamo, e quindi anche raccontare questo deve essere anche abbastanza divertente. Detto questo, ragazzi, quindi vi do appuntamento a giovedì prossimo per quanto riguarda Quando eravamo futuro, ore 21:30 quasi sicuramente, mentre per quanto riguarda invece archeologia videoludica, torniamo venerdì prossimo, quindi non domani ma venerdi prossimo alle ore 21 con una puntata interamente dedicata alle origini di Ultima, quindi Ultima, i suoi inizi, Geriot, la nascita dell'origin, e insomma sarà una puntata assolutamente interessante perché abbiamo anche un ospite d'onore, giusto Carlo? Assolutamente, avremo Andrea Contato che è l'autore di due libri dedicati proprio alla storia di Ultima, esatto, e della Origin. Esatto, quindi insomma sarà una puntata interessante. Mentre andatevi a ripescare, già uscita chiaramente in podcast, la puntata scorsa di Archeologia Informatica, dove abbiamo parlato dei cloni dello ZX Spectrum nel blocco sovietico, nell'oltrecortina, diciamo. Quindi un po' di storia dell'informatica nella Russia, esatto, insomma, nel blocco sovietico, che a noi era assolutamente completamente sconosciuto. Assolutamente. Esatto. Bene, detto questo, diciamo, continuate a sentire, ad ascoltare www.rantemeradio.it durante la giornata, durante tutte le giornate, dove trasmettiamo quasi in continuazione vecchi podcast, programmi aggiornati, insomma, quindi facciamo uscire sempre un sacco di materiali, e la domenica facciamo sempre il best della settimana, cioè tutto quello che durante la settimana di meglio è uscito lo riproponiamo, e poi ci sono le live che facciamo la sera. Io ringrazio e saluto, do la buonanotte e anche il buon appetito a Carlo Sant'Agostino. Grazie, buonanotte a tutti. Che se adesso se va a fare una carbonara. No, vado a dormire. No, questo è il colpo al cuore. Saluto e ringrazio ovviamente anche Davide Gatti. Buona serata a tutti e grazie di essere stati con noi a giocare un po'. A giocare un pochino, hai detto proprio bene. E ringraziamo e salutiamo anche Roberto Domaiuolo, che appunto, come abbiamo detto, questa puntata non c'era, ma ritornerà giovedì prossimo. Vi lascio con c'era, il brano di nascosto c'era comunque adesso. Sì, l'ho visto che c'era, però insomma. Vi ringrazio e vi saluto e vi lascio con il brano della settimana. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao. Questo è un brano consigliato da Runtime Radio. Ciao ragazzi, mi chiamo Marcello e sono il cantautore di Mellifrugo, un piccolo progetto alternative sgangherato che porto avanti ormai da quasi 10 anni. Oggi ho il piacere di presentarvi un mio brano intitolato Baleno, che ho composto 3 anni fa e che invita le persone a non farsi influenzare dalle mode e ad essere sempre se stessi in ogni circostanza. Se volete saperne di più, vi basta cercare Mellifrugo su Bandcamp e Spotify, dove potete ascoltarmi, e se volete altre informazioni basta cercare sulla mia pagina Instagram e sulla mia pagina Facebook. Non posso far altro che ringraziare Runtime Radio per questa opportunità, vi auguro un buon ascolto e tanti saluti. Ciao! Ti ascolto, ti aspetto di sotto. Mistletoe.